Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, 14 e 31 primi, anzi 32 primi in questo istante. Questa è la nostra 21esima puntata quest'anno di Voice Anatomy. Grazie come sempre per volerci così bene. Apriamo come sempre con i compleanni. Oggi è un compleanno di una grandissima voce, almeno a me mi ha accompagnato tantissimo dal suo esordio, un menestrello incredibile, e vorrei far leggere al nostro primo ospite, all'attore doppiatore di turno, senza dire il suo nome, lo presenteremo degnamente fra un po', ma gli ho chiesto di avventurarsi in questa poesia, in questa storia, con la dedizione che vuole, con la voce che vuole. Così racconteremo Angelo Branduardi, che Angelo ci perdoni ovviamente. Sottofondo, grazie Alessandro, a te. Alla fiera dell'est, ecco, per due soldi, sì, un topolino mio padre comprò. Questa è disperazione. E venne l'acqua che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. La gente si sta staccando dalla radio. Alla fiera dell'est, per due soldi, oh mio Dio, un topolino mio padre comprò. E venne il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, Cristo santo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, sì, per due soldi, per due, così poco, un topolino mio padre comprò. Sì. E venne il macellaio, che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, oddio, che morse il gatto, oh mio Dio, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Già così, no? Adesso un pochino meglio. Se c'avevamo, diciamo, una possibilità che Branduardi potesse partecipare a Voice Anatomy, ce la siamo giocata così. Esattamente. Chiedo scusa. Alla mia sinistra un giovanissimo e bravissimo attore doppiatore, come l'altra settimana il bravissimo Edoardo Stoppacciaro, e la volta dell'amico Simone Crisari. Benvenuto. Ciao a tutti. Eccolo qua, Simone. Ciao mamma, sto in radio da Pino Insegno. Smettila. Sei una voce da bambino, ma non sei così piccolo. No, non sono un bambino. Faccio tu il sei cretino. Nato il 30 agosto. Sì. Lo sai quando sono nato io? Lo so, sì. Il 30 agosto. È andata così. Sei un verginello come me. Purtroppo sì. Oggi poi è la festa anche del bravissimo Paolo Fox, che stiamo cercando di raggiungere per telefono, ma sembra irraggiungibile. Aveva detto che stava in un momento di strada particolare, mm-hmm, anche se il suo oroscopo non l'aveva predetto tutto questo, però non c'è campo. L'unica cosa che non ha indovinato. Che non c'era campo. Ho detto chiamatemi, eccetera, eccetera. Però così, tu sei dell'81. Dell'81. Tu sei sì, più giovane. Un pochino più giovane, sì, di me. Sì, 3-4 anni, tranquillamente. Sì, so quei 3-4 anni. Diciamo. Sei vergine ascendente? Leone. Per cui? Per non cui, so che non, io, ma non essendo Paolo Fox qui presente. Ce lo dovrebbe dire lui, non esatto. So. Simone, tu hai cominciato prestissimo. Tu. Io ho iniziato, sì, a 6 anni. Sì, come sì. Mai? Sei figlio d'arte o figlio d'artri? Sono semplicemente cretino, no, a parte gli scherzi. ho avuto l'opportunità di provare a 6 anni. Mio padre faceva il tecnico per il doppiaggio. Ah, il tecnico del suono. Esattamente. E all'epoca c'erano pochissimi bambini. Quindi chiesero nello stabilimento dove lavorava lui se c'erano bambini o figli da portare per provare, eccetera, e misero a disposizione questa direttrice geniale, che era Grazia Capabianca. Era Studio Immagine all'epoca, però insomma lei era libera, lavorava un po' con tutte, mm-hmm, le società, e ci ha insegnato un mestiere, nel senso che io poi da lì sono partito e un po' funzionavo, e insomma mi piaceva, e quindi ecco. Senti, qua. Sì, questo è quello, sì, che diciamo sempre ai nostri radioascoltatori: chi ha la possibilità di cominciare da piccolino può imparare, perché respira, cioè, quell'aria immediatamente, allora non c'è bisogno magari di fare immediatamente scuole di dizione e impostazione, perché lo impari proprio sul campo. Certo, sei una spugna da bambino. Strada, no? Quindi strada comunque... facendo, poi giustamente uno deve cominciare a capire come lavorare con la propria voce. Infatti tu non è che fai solo doppiaggio, ti avventuri nel teatro, giochiamo nel anche un po' a fare teatro. Uno fa l'attore, lo diciamo sempre, il doppiatore è il climax di questo, di questo ambiente. E anche perché poi tu da piccolino, perché poi quando eri piccolo tu, i bambini li doppiavano spesso le donne. Le donne, esattamente. Perché c'è un attore che tu hai seguito tanto, che non so come si pronuncia esattamente, poi mi riprenderanno sempre i nostri amici radioascoltatori, c'è un inglese improponibile. Io te lo faccio dire, dillo, sto zitto. Io lo so dire. È l'attore protagonista di Mamma ho perso l'aereo. Quello biondino, il biondino Russell di Mamma ho perso l'aereo. Mancunicanchi. No, non si può avere un nome del genere, cambiatelo. E infatti, trovate Russell Smith, trovate un nome più facile. Frank White. E poi perché dici uno da grande si droga? Perché c'hai quel cognome. Quando capisci come ti chiami, dici che devo farmi, drogo. Però tu non l'hai seguito su Mamma ho perso l'aereo, no, perché lo doppiava Ilaria Stagni, che è una bravissima doppiatrice, che verrà, geniale del doppiaggio, eccetera eccetera. E tu l'hai fatto dopo, però. Io l'ho fatto, tranne Mamma ho perso l'aereo, il primo e il secondo, tutti gli altri film che ha fatto, i film poi importanti, si è perso... da bambino. Poi lui ha scelto di fare un'altra strada, io l'avrei seguito in quella strada, solo che poi ma che dici? Sto scherzando, scherzo chiaramente. Però sì, poi lui, sì, esattamente, poi lui si è perso, diciamo, e quindi sì, e poi è uno che si è fatto da solo, più di una volta si è fatto i rifatti. Non so che fine hanno fatto certi personaggi, in effetti forse ti esplode proprio il cervello quando arrivi a certi livelli. Esattamente. Ma strano, perché non mi è mai successo. Vabbè, insomma, non dobbiamo parlare di assolutamente. Esatto. Vogliamo sentirci un primo contributo dell'amico Simone Crisari. Nello stesso momento io saluto dall'altra parte del vetro i nostri autori, Alessia Navarro. Ciao Alessia. Eccolo là, Mauro Meconi. Ciao, che Mauro. È sempre puntuale, che ha ripreso. Siamo andati in diretta con la ripresa della Fiera dell'Est su Facebook? No, la rimetteremo sul sito. Il numero lo sapete, 349-238-6666. Alessandro, puntuale come tecnico del suono. Rachele, caporedattrice di se stessa. Lei ha veramente un problema, si ricorda più cose delle persone che vengono ospiti. Certi non si ricordavano di aver fatto quello... che hanno fatto. Stai continuando a cercare Paolo, se riusciamo a beccarlo in un punto dove fa capo, perché vogliamo sapere io e lui che anno ci aspetta. Che cosa succederà, esatto, quest'anno. Cioè, perché di Paolo mi fido tantissimo. Allora, ci ascoltiamo uno dei brani. Cominciamo con Bronx. Bronx è chi doppiavi? Doppiavi Bronx, De Niro da giovane? Esattamente, sì. Ah, De Niro giovane. De Niro giovane. Che era Francis Capra. Esatto, ma lui. No, che dice Meconi? Dice no. Che cosa? Palle. Lorenzo, il figlio di Robert De Niro, chiedo ma ero io sicuro? Ma vi rendete conto? Cioè, noi guarda che ma anche perché l'ha doppiato quanti anni fa? Credo sia un film del 91-92. Tu ancora non sapevi camminare? No. Io c'avevo già. Vado a casa. Avevo vado già a un casa. Inizio di prostatite in quel periodo, per cui ero già grande, ma tu eri piccolo. Vabbè, sentiamoci questa interpretazione del figlio di Robert De Niro in Bronx, un bellissimo film. Simone Crisari, prego. Che sono questi? Questi cosa? Dove hai preso questi? Tua madre li ha trovati dietro il cassetto. Sono soldi che ho messo da parte. $600 hai messo da parte? Sei diventato un neurochirurgo da un giorno all'altro. Di a tuo padre dove li hai presi? Me li sono guadagnati. Facendo che? Cose. Cose? Come sarebbe cose? Quali cose? Te l'ho detto, delle cose. Ehi, non dire bugie. Dimmi la verità e io non mi arrabbio. Promesso? Sono tuo padre, te lo direi se non fosse vero. Ho lavorato dove giocano a dadi e ho preso le mance. A dadi? Come sarebbe a dadi? Come sarebbe a dadi? Quale mance? Come sarebbe a dadi? Avevi detto che non ti arrabbiavi, papà. Era una bugia, dai, dimmi tutto. Ho lavorato per Sony e lui mi ha dato le mance. Lo sapevo. Eppure te l'ho detto mille volte di non avvicinarti a quel bar. Mamma, io ci lavoro. Come sarebbe ci lavori? Non ci deve neanche entrare. Io questi glieli riporto subito al bar. Beh, pensiamoci un momento prima. Come sarebbe pensiamoci? A che dobbiamo pensare? I soldi ci servono, non gli hanno fatto fare niente di male, ce li possiamo tenere, no? Non è questo il punto, lo sai da dove vengono? Io non li voglio i soldi di questo genere. Stammi a sentire un momento, ho detto solo pensiamo. Ho detto di no, andiamo. Ecco, ha detto di no. Ma che bello sentire Ferruccio Amendola. Lei chi era? La... Lei non lo ricordo. No, ricordo. Stranamente non lo ricordo tutto, visto? Questa sì, cosa in particolare. È del 93, mi dice il nostro amico sì, dall'altra sì, parte sì, del vetro, per cui sono passati 24 anni. Tra l'altro era uno dei film preferiti di mio padre. Vabbè, insomma, è bello, grazie. Mi avete fatto un regalo immenso. Ma no, ce l'hai fatto tu, perché... E poi questo, io vengo poi da Catania oggi perché sono stato in una piccola tournée in giro per la Sicilia facendo tappa fissa a Catania, che poi il dialetto che si utilizza spesso nei film quando si fa l'idolo americano è il catanese, che è quello più sonoro, giusto, per quanto riguarda il barese, per raccontare la Puglia, insomma, no? Perché poi la Sicilia è una terra piena di lingue meravigliose. Poi questa è la festa di Sant'Agata in questi giorni, voi non sapete, non sapevo che cosa... No, una cosa, è la terza festa più importante del mondo. Cioè si ferma il mondo, tu non puoi camminare più. Niente. No, i fuochi d'artificio alle 4:30 c'erano fuochi d'artificio ancora. Ma oggi pomeriggio e domani sarà ancora di più. Sì, una cosa, infatti sono partito con l'aereo, ho dovuto guidarlo io per levarmi, perché non veniva neanche il pilota, per cui sono arrivato di corsa qua giù. Però è bellissimo, è una voce bambino, anche perché c'avevi quanti anni? 12. 13. Però quella, l'abbiamo la detti tutti. Sì, la verità... abbiamo chiamato un ospite, dico chiamiamo Simone Crisari, giovane, bello, pimpante, si fresco, tutto. Si ricorda tutto, è perfetto. Doppiavo Robert De Niro da giovane, invece come il figlio. Sì, eh sì, dipende se è tornato da Amsterdam come Mauro Meconi. Per cui... Eravamo insieme, non l'avevamo detto, vabbè, punto, diciamo questo scoop, eravamo insieme. Immagino. Poi hai doppiato tante altre persone. Qual è stato il percorso subito dopo i primi... Brusì, immagino, da piccolino. Ma invece sai che hai cominciato subito... ho avuto la fortuna di fare subito ruoli, nel senso che la prima cosa che stranamente cioè, mi ricordo... Bambino 3 no. Bambino 3 no, poi magari in futuro... È capitato. Con tutto il lavoro che facciamo è capitato chiaramente anche quello che è comunque lavoro. Quindi, lavoro, insomma, scherzi, non è... sono turni. Però ecco, no, da piccolo sempre ruoli. Il primo è stato l'amico di Tim nella serie Lassie, in bianco e nero. Lassie, che non è il passato di remoto di leggere. Esattamente, ma è il nome di un cane. Il cane. E io facevo l'amico del proprietario del cane, tale Boomer, che era un cicciottone, e io avevo 6 anni e stavo cetta, tipo quella che... Ma Lassie è stata la serie quella storica di quella Lassie. Storica in bianco e nero, sì. Il ridoppiaggio di quella, credo, perché, di sì, perché, sì credo di sì, qualche anno prima. Qualche anno prima, sì, sì, comunque questo è come Rasti. E poi da lì hai continuato tranquillamente. E poi da lì ho continuato, sì, con serie, cartoni animati, ho fatto per una vita il figlio di Pippo nella serie Ecco Pippo. Il figlio di Pippo. Sì. Sei stato figlio io, per un periodo. Esatto, beh, chiaro, certo. Figlio di Pippo non è male, visto oggi come stai combinato Pippo. Con la memoria e quant'altro. L'ho detto apposta. No. Non è vero, no, scherzo, no. È un orario particolare, ma noi siamo sdoganati da Cruciani. A proposito di Cruciani, dopo ci raggiungerà Andrea Perroni, che è un grandissimo imitatore, eccetera, e tutto. L'ho rubato a Luca Barbarossa prima di andare poi a Sanremo, e fanno una trasmissione bellissima su Radio 2. E lui è un grande imitatore. È, e Cruciani sì. È lui, non solo Cruciani, ma dopo ci divertiremo. Volevo chiamarlo anche Giuseppe per capire cosa ne pensa. Va bene, signori, siamo arrivati alla fine del primo blocco, ovviamente, dell'inizio della nostra trasmissione dello Startup di Paolo Fox. Nessuna traccia. Niente. Va bene. Si è perso un bambino di 51 anni, Moretto, con delle occhiaie importanti, e Paolo Fox. Va bene? A tra pochissimo con Simone Crisari e altri importanti ospiti per telefono. A tra poco, e vi ricordo che Voice Anatomy è appena cominciata. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 14:46 primi e 6 secondi. Simone Crisari, a parte i complimenti che mandano, che va bene, io vi ringrazio come sempre. Poi c'è qualcuno che entra nel link proprio della persona che abbiamo ospite. Ricordo il talentuoso Simone. Attenzione, forse parla di qualcun altro. In un film strano ma terribilmente divertente, che era Last Action Hero. Come no? Un saluto a voi, Dino. Sì, no, hai fatto. Ero io, questa me la ricordo. Eri il bambino. Ero il bambino. Non eri Schwarzenegger. Assolutamente. Era no. Alessandro Rossi. Che era sempre Alessandro Rossi, sì, veramente. C'era un corpo che non finisce mai. Molto più bravo Alessandro Rossi e Schwarzenegger. Direi di sì. Direi ce lo tengo. Sì. Però questo lo sappiamo noi, non diciamolo. No, ma si sa, dai, si capisce. No? Non è come l'altro giorno che si è sfogato Cristian Ianzante e ha detto, perché sono molto più bravo io di quel Walking Dead, non vale niente. Ha detto delle cose. Se ma proprio si è lasciato andare, se l'avessero sentito quelli della Fox, ho capito, ma gli levano la parte. Anche meno, dai. Non si può dire, infatti non lo chiameremo mai più per un consiglio a qualcuno. Allora, amico mio, poi c'è anche il bravo, come si chiama? Lo voglio pronunciare bene perché sennò Robert Pattinson, no, quello è normale. Robert Pattinson. La leggenda dei Nibelunghi 2, tu l'hai... No, ti ring... Ma chi avete chiamato? Ma sto scherzando. Ma ci sono tanti di quelli. Scusate, non vuole essere. Voi dite sempre: è bella questa trasmissione perché sembra di stare al bar con degli amici che invece sono dei grandi professionisti. È ed vero. È bello perché sembra di stare a casa. Chiedo scusa. Questo caso c'è qualcosa di diverso. Pensa, abbiamo noi il contributo di questo grande film, okay, dimenticato, che bene. La leggenda dei Nibelunghi 2, neanche il primo. Robert Pattinson, sai chi è? Ma santa miseria, non sa neanche chi è Robert Pattinson. Certo. È quello di Twilight. Sì, certo. Che tu non l'hai... Però non lo sapevo. Che è Crescentini invece. Esattamente, che verrà ospite. Però quando era piccolo tu domani ti ricordi che turni hai? Devo sicuro? Controllare l'agenda. Non lo sai. Cioè stai così a 30 anni. È più o meno, no, dai. Sì, veramente, come dice Meconi nell'interfono, doppi sotto ipnosi. Esatto. Mi dicono quello che devo dire, io dico. Dopo ci sarà una bravissima psicologa che si occupa di un po' di problemi anche della voce, babbuzzi, eccetera. Eccola qui, la nostra chiara amica che poi presenteremo Buongiorno. Più tardi, che è anche ho esteticamente... Ho bisogno d'aiuto. Ma tanto, ma non di te esplicitamente, cioè abbiamo bisogno proprio di chi dà le medicine, che è lo psichiatra. Posso dire una cosa solo, una cosa per cercare di discolparmi in qualche modo? Certo. Ammesso che ci riesca. Ti prego. Da piccolo, io come tanti altri guarda, miei colleghi ci sta sentendo, guarda Chiara è già arrivata e sta lì, ti sta ascoltando. No, volevo solo dire che abbiamo fatto tante cose, veramente tantissime cose, e quindi purtroppo qualcosa ce la siamo, uso il plurale, metto in mezzo anche i miei colleghi, ce la siamo dimenticata. Chiedo dall'altra parte del vetro a Chiara Comastri, che è una grandissima psicologa che avremo fra poco, la strada che sta percorrendo cercando delle scuse banali, secondo te, fammi solo un cenno. Dici, non c'è niente, non c'è niente, non c'è da manco un medicinale. Grazie, arrivederci. Mamma, spegni la radio. Però a questo punto voglio ascoltarlo io, il contributo. Ascoltiamolo. Di questo... No, va bene. La leggenda dei Nibelunghi 2 è un film mai più senza. Questo film è indimenticabile. Ascoltiamo come Crisari ha doppiato Robert Pattinson prima di Twilight e prima che lui si facesse queste strane droghe. Prego. Mio signore, c'era un clandestino nascosto tra le provviste. Gettatelo in mare. Credo che sia meglio che prima lo vediate. Gisler, ma sei impazzito? Volevo vedere le donne scandinave, le valchirie che combattono come uomini. Perché, Gisler, vuoi una donna guerriera tutta tua? Perché non me l'hai chiesto? Te l'ho chiesto tante volte e non me l'hai mai concesso. Il tuo posto è a casa. Evviva! Regnare Burgundia. Allora, attenzione. Evviva! Attenzione. Allora, mamma, sto bene. Allora, hanno scritto sul sito Genat, perché poi è bravissimo, sì, che un l'hai, doppiato, lui, però l'hai doppiato tu, ha invece commesso un errore. È Alessandro Tiberi. Il grande Alessandro Tiberi, esattamente. Non eri tu. Non ero io. Cioè, ecco, per perché tutto non quello lo che abbiamo detto Pino, adesso, esatto. Dobbiamo recuperare e chiedere scusa recuperare. Anche Chiara, però lei gli ho soltanto chiesto un'anamnesi e lei ha risposto su quello che io gli ho raccontato. Non l'aveva fatto lei, insomma, per cui un discorso del genere. Anche perché un film con quel titolo me lo sarei ricordato. Francesca Pino, sì, è vero, no, indimenticabile. Ci tradisce Francesca che ci segue sempre, perché oggi c'è la partita dell'Italia contro il Galles di rugby. Venendo qui ho visto un bel casino. Sì, c'è il Sei Nazioni che poi... Molto bello. No, quello è molto interessante, però qualcuno dice non ridete così tanto, voglio seguire meglio la trasmissione. Scusate ma no, ma ognuno ha la sua. Scusa, è ovvio che quando la risata è vera, come in questo caso, succede anche a voi, e noi siamo veri, non dobbiamo falsificare le nostre emozioni, diventa veramente un discorso fra noi, ma cercando di inglobare le persone che sono a casa. Certamente. Grande la voce del figlio di Pippo nella serie, eccolo, me la vedi? Ricordavo benissimo quella voce, che bel programma, non ne perdo una puntata, dice Raffaello. Bene. No, ma sono molto attenti, veramente molto attenti. Allora, bene, per recuperare dobbiamo ascoltare un'altra cosa che lui realmente ha fatto. Però. Speriamo. Beh, tu hai fatto The Wolf of Wall Street, che è il coprotagonista. Ero io, sì, ero io. Eri con Francesco Pezzulli. Con Francesco Pezzulli, che faceva DiCaprio, io facevo Jonah Hill. Jonah Hill. Jonah Hill. È stato faticoso, un film faticoso. È stato molto faticoso perché lui è un attore straordinario e in quel film in particolare si drogano molto loro. Sì. No, no, no, no, no, no, no, certo. Sul no, serio, no, quindi certo. Per seguirli lui cambia... Non mi sono domandato, no, no, volevo dire... Non è Strasberg, certo. Esatto, per seguirli è stato insomma molto, molto faticoso. Sì, noi dobbiamo però stare bello. Fermi di fronte a un microfono. Esatto, e ricreare cercare. Quella roba lì è faticoso. Ed insomma. È qui che si parla di voce, ed è questa la trasmissione che racconta tutte le declinazioni della voce, dove la voce può arrivare, che tipo di emozioni può raccontare, che la voce, io lo dico, l'ho detto dalla prima puntata, è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, non ce n'è per nessuno, è la voce, è la voce, la voce è una voce, non la bella voce, lo sottolineo sempre, ma le belle intenzioni. È vero che questa è una cosa che vale più il rapporto uomo-donna, nel senso un uomo bellissimo di fronte a una donna, gli parla, gli dice ciao tessina andiamo al cinema, lei dice no, grazie, sto no. A casa con sto mamma a casa. Il contrario invece per noi è la stessa cosa, sì. Se arriva una bellissima donna e ci dice ciao. Andiamo al cinema, come tu dici sì, come? Stai zitta, basta che non fa, vediamo il film. E poi noi è questo, ma qui parliamo di sinapsi rispetto alle donne, quanto sono storia. Più intense rispetto a noi. Allora ci ascoltiamo un momento di The Wolf of Wall Street, dove realmente Simone Crisari doppia il coprotagonista, che è Jonah Hill. Prego. Insomma, tipo che hai sposato tua cugina o scemenze così, no? Sì, mia moglie è mia cugina, come dire, ma non è come pensi tu, comunque, ecco. Ma è tipo una prima cugina? Sì, no, è una... suo padre è il fratello di mia madre. Non è cosa. Ecco, siamo cresciuti insieme e lei è diventata sexy, cazzo. E tutti i miei amici cercavano di farsela e io non potevo permettere che uno di quegli stronzi si fottesse mia cugina. No, così, come dire, ho usato il fatto che fosse mia cugina per farmela. Non potevo lasciare che qualcun altro se la sbattesse, no? Se qualcuno si doveva fare mia cugina, toccava a me, anche per rispetto, no? No, certo, sì, voglio dire, non hai paura per tutta la faccenda dei figli? Cioè, sai... Di avere figli con lei? Sì. No, abbiamo due figli. E sono... Insomma, non voglio farmi i fatti tuoi, ma sono... Ok? No, non sono ritardati o cose del genere. Ma c'è una buona probabilità, giusto? Sì, lo so. Sì, c'è un 60%, cioè 60-65% che i figli vengano ritardati o cazzate del genere. Io sarei terrorizzato a morte. Ma guarda che fare figli comporta dei grandi rischi comunque, che siate cugini o no. Beh, ma... Metti che succedeva una cosa del genere. Ah, certo, se uno fosse stato ritardato l'avrei subito portato in campagna. E come niente avrei aperto la portiera dicendo sei libero, ora su vai, sei libero. Vai. Mi stai prendendo per il culo. Fai dire? questa volta stanno ridendo ma nel film. Nel film. Beh, un bel lavoro. Chi era il direttore? Rodolfo Bianchi. È stato veramente un gran bel lavoro. Qualcuno ci ricorda il nostro amico Carlo, un traduttore di latina. Pattinson è quella noia infernale di vampiro di Twilight. È vero, eccolo, che... è lui, sì. No, ma non mi riguarda. Twilight, quindi... veramente, ce ne sarebbe da parlare per ore di sì, Twilight. Sì, non l'ho mai visto io purtroppo. No, però, è la storia di una famiglia, di un paese nel Maine, dove stanno 186 abitanti, di cui 112 sono vampiri. 44 sono meccanici che diventano uomini lupo, uno ha aperto un negozio di alimentari, ma chiuso, dice che sto a fare ma che sto a fare io qua a mezza stima. E lei col padre, che invece sono normali, e lei si fidanza prima con un vampiro e poi con l'uomo lupo. Ah. Fa un po' tutte queste cose. Poi bene. Non se ne accorgono gli altri, vanno a scuola insieme a questi qui, nonostante vanno a scuola solo quando non c'è il sole e quando piove. Cioè, quindi poi ma è bianco, una domanda allattato, te la fai, l'occhi cioè... rossi, dice ci avrà blefarite, ci avrà un'anemia, che malattia, capito? Invece no, poi il padre c'ha 12 anni meno del fio più grosso, te via un dubbio. Ma insomma, se ne potrebbe parlare veramente giornate intere. Sì, però è così. Va bene, fra un po' parliamo anche delle tue serie TV, che sono tantissime, ma veramente tante. Poi c'è un altro grande attore di un grande film che io non mi ricordavo che tu hai fatto, che è Creed. Ah, come no? Cioè, bellissimo. Quello sono sempre io, è vero. Il settimo capitolo della saga di Rocky. A tra poco con Simone Crisari. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, ore 15 e 17 primi. Simone Crisari alla mia sinistra. Eccoci. La mia destra, ho chiesto all'ospite che succederà a Simone Crisari di essere vicino a me in questo momento perché è una grandissima psicologa, poi parleremo di lei in maniera più compiuta. Lei è Chiara Comastri, grazie Chiara. Un piacere, do solo un po' di supporto in questo momento complicato. Ed è gratis, dillo a Simone qualsiasi cosa. Grazie infinite. È un tutorial gratuito, è un'anamnesi che faremo sul... Certo, l'attore veramente andrebbe psicanalizzato o il lavoro dell'attore che ti aiuta ad essere autopsicanalizzarti? Cioè, a sentire gli attori dire che... dicono che è così, nel senso che a forza di fare tanti ruoli in qualche modo vai a scoprire parti di te, esatto. Poi chissà. Ma poi tutti noi, cioè l'attore ha tutte le sfere emozionali dentro, come un essere umano. Un essere umano è un papà buono, è un assassino, è razzista, è invece è giustizialista, non lo è, c'è tutto. Poi un attore le tira fuori, si sfoga in scena in qualche modo, sì. E torna ad essere una persona equilibrata. Non sto parlando di te. Grazie, è terapeutico. Grazie, Chiara, di questo supporto. Poi ovviamente parleremo invece del tuo apporto e supporto nella materia straordinaria della psicodizione, la balbuzia. Poi ne parleremo di tutte queste belle cose. Vedete come preoccupato. Sei veramente preoccupato. Sì, esatto. Ridete pure e fate divertire, che andate benissimo. Ci dico adesso, vi ordino due birre, dice Franco. Grazie. E come va bene. Complimenti, ridete, eccetera, perché ovviamente loro partecipano in tutto. C'è chi apprezza, dice, ma insomma, il mondo è bello perché è vario, oppure come dice quello, il mondo è bello perché è variato. Ma qui insomma parliamo di tutto con grande leggerezza, anche di cose molto importanti. È il modo migliore per farle arrivare. Insomma, tutto dopo questo, qual è stato il tuo sliding doors? Questa è la domanda che faccio sempre, un po' come l'amico di Mezzanotte e dintorni, no? Cosa c'è dietro l'angolo? Però c'è un momento in cui uno ha un percorso e capisce, ok, sono sulla strada giusta, lo posso fare. Allora, in realtà, quando sono stato costretto ad operarmi alle corde vocali. Oh, vedi, perché adesso avevo un polipo grandissimo su una delle due corde, quindi faticavo tremendamente a lavorare. Polipo da sforzo, normalmente vengono polipo da sforzo, perché da piccolino ecco, nessuno mi aveva insegnato ad usare bene la voce. È una cosa che urliamo da questi microfoni, che bisognerebbe insegnarlo già da scuola, Chiara. Non sei d'accordo che i nostri figli, o comunque i figli anche degli altri, i ragazzi, debbano insegnare l'utilizzo della voce, a parte l'italiano? Assolutamente sì. Io addirittura vado oltre, dico che bisognerebbe insegnare la buona comunicazione, fin dalle elementari. Sì, il coaching, come si chiama magari in alta Europa. Assolutamente sì, perché se i bimbi già dalle elementari iniziano a stare di fronte all'ansia in maniera funzionale, addirittura usano la voce in maniera funzionale per portare fuori il meglio di sé, insomma, diciamo che diventano degli adulti più soddisfatti, quantomeno. Hai capito, Simone? Questo ti è successo. È usato in maniera disfunzionale. Troppo. Sì, un polipo da sforzo che poi rischia di battere contro l'altra corda vocale e creare un edema. Esattamente. Insomma, no, io stavo proprio al limite, quindi dopo l'operazione è cambiata la mia vita, nel senso che ho cominciato a lavorare come tutti i miei colleghi. È stato bellissimo lo scarto che ho fatto, perché con un filo di voce riuscivo a fare quello che prima invece dovevo fare così. Perché leggevo con i miei colleghi, vedevo loro pipipi tranquilli, io con sta gola, perché ho capito il problema. Non c'era la respirazione, tutto parte dalla respirazione, no Chiara? È tutto lì, anche se tu non fai l'attrice, ma io sai perfettamente che significa comunicare, visto che ti occupi di public speaking, eccetera. Ebbene sì. E sai perfettamente come far utilizzare i toni giusti alle persone che vogliono parlare a una platea. Sì, in realtà io non lavoro tanto sulla respirazione, lavoro più sul gustarsi il suono, e do per scontato che il corpo sappia fare quello che sa fare. Quindi quando tu hai il controllo del suono, di quello che porti fuori, lo riempi, automaticamente il corpo ha anche la parte respiratoria che funziona bene. Ma poi sicuramente ci sarà un foniatra che mi dirà qualche consiglio, me lo darà. Diego Cossu, che è il nostro foniatra di riferimento, è sempre molto attento a questa trasmissione. Insomma, Simone, doveva essere un'ospitata, sta diventando veramente la mia festa. Te sei ricoverato praticamente. Dove sei andato? Ieri in clinica da Pino Insegno, mi hanno ricoverato. Sto benissimo adesso, meglio. Per carità di Dio. Allora, la leggenda dei Nibelunghi 2, no. Purtroppo però, no. Però Creed. Creed, sì. Che molto, Michael sì. B. Jordan, Michael questo B. Jordan. Figlio di Apollo Creed. Esattamente. Ma io non so, io la saga di Rocky la farei continuare in eterno. Tu l'hai visto, Rocky? Sì, Rocky e anche Creed, che mi è piaciuto molto inaspettatamente. E la interpretazione di Rocky mi è piaciuta moltissimo da anziano. Sì. Nel senso che ha reso la tridimensionalità del personaggio molto più densa rispetto magari ad altri. Si vive la malattia nel film. Me l'aspettavo, no? Insomma, un Oscar lì. Anch'io, si trasforma, è un genio, secondo me. Sì, sì. Invece sto pensando, si farà Creed 2? Non t'hanno chiamato? Allora io seguo lui su Instagram, ha messo una foto un po' dubbia. Che non mi doppia Crisaria, no, esatto. Non so in inglese come è scritto. Quello dei Nibelunghi, dei Nibelunghi 2. L'ha scritto in americano, e quindi pare di sì, non si sa quando, però lui ha messo questa foto in cui lui allena due bambine, no, però, e tutti i fan hanno chiesto Creed 2, Creed 2, lui, però insomma, non ha risposto, ormai però... è, cioè, è fatto e rifatto completamente, cioè, in sì. effetti c'ha quei muscoli, la pelle che è un po', sembra un po' fra Alba Varietti e... No, è un po', è un po' rifatto. È un po' rifatto. Però Rocky è meraviglioso. Questi sono i film che bisogna far vedere come motivazione alle gente. Secondo me sì, secondo me sì, perché vedi proprio come dal niente, dalla voglia, uno trova il modo, no? Mm-hmm. Quando è forte il perché, come si dice, il modo lo si trova, quindi il come arriva. La forza è quella. E poi, dopo Creed, che cosa stai facendo tanto adesso? Che sta succedendo? Allora, adesso c'è una serie molto bella che va su Sky. Ah, tu ce n'hai tantissime, volevo leggerle sul cellulare, sul computer, tutte le serie che hai fatto, cioè... Vabbè, ma... No, lo so, ma... non dura tantissimo la trasmissione. Non disturbiamo. Però, insomma, qual è quella tua... Tu hai anche Il Trono di Spade. Il Trono di Spade, 24, sì. Shameless. Sì. E The Night of the Walking Dead. Dio, sì. Sono diventato americano. Accidenti. Cioè, sto pronunciando bene le cose in inglese. Accidenti. Sto meglio. Va tutto bene. Va tutto bene, ok? Va tutto bene. Come diceva il grande Amendola. Grandissimo. E qual è quella... E quindi questa serie si chiama Atlanta. Ed è, la storia di un rapper pluripremiata agli ultimi, sia la serie che l'attore a cui presto la voce, come si dice, insomma, di doppi neri, perché poi normalmente la voce dei neri è un po' particolare, perché è difficile da... Sì, noi la facciamo sempre con la voce un po' più timbrata, però loro hanno questo suono di gola irripetibile, secondo me. Anche il modo di muovere la bocca è un po' differente, perché hanno le labbra molto grandi, quindi comunque articolano molto, insomma, riempire quelle bocche lì in gergo, insomma, è un po'... Sì, anche quei fisici lì, anche quei fisici, anche diciamo. Soprattutto in Creed, infatti, sì, lui... è stato un po' faticoso. Ecco, lì... è stato faticoso. Non... Massimo Rossi mi ha diretto in maniera straordinaria, mi ha fatto faticare e devo dire che il risultato è stato... Sì, anche perché quando stai sul ring, eccetera, sì, non parla tanto sul ring, no, però c'è... Parla... No, ma c'è, cioè, insomma, lui si arrabbia più di una volta nel film e... Lui non siamo riusciti a scaricare niente di Creed, Mauro Meconi, sta invecchiando. Niente, non riesce, non è facile perché sono dei diritti anche in un film. Certo. Però secondo me se cerchi una, non si può, non c'è niente. Va bene. Qualcosa di Chiara Comastri quando faceva la pugile? No, questo neanche, no, non ha mai fatto la pugile. Ho avuto un attimo di panico, aspetta, la pugile mi mancava. No. Torno dove ero andata al tuo psichiatra con i tuoi farmaci. Senti, da un'ospitata, parlare di cose importanti, abbiamo rivelato qualcosa di più. Insomma, qual è stato il tuo momento? Abbiamo detto che hai capito, farò questo mestiere. Farò questo mestiere dopo l'operazione. Dopo l'operazione è stato tutto molto più facile, ma diciamo da subito, Pino, perché io sono arrivato lì e sono impazzito, cioè avevo 6 anni, non capivo nulla, era tutto nuovo e io ho detto io voglio stare qua. Così. Sì, che preferisci? A fare le vocine davanti al microfono, a farmi prestare il corpo dagli altri. A farmi dire le cose da dire, a imparare. Sono impazzito per questo. Però secondo teatro me il tu non l'hai mai lasciato mondo. Adesso ultimamente tu hai fatto un bellissimo Giardino dei Ciliegi. Come no, c'era anche una nostra amica. Sì, e c'era l'autrice, Alessia Navarro. Per cui l'ho visto per forza in qualche modo. Sei stato, sì, però sì. Bellissima operazione. Tu teatro anche, hai cominciato teatro anche. Subito col doppiaggio a 6 anni. Ho cominciato col doppiaggio, poi per un caso ho fatto delle piccole cose. Allora, da piccolo una fiction con Marco Columbro e Nancy Brilli si chiamava Papà prende moglie. Mm-hmm. Eravamo io e Miriam Catania. Sì, la figlia di Rossella. Di Rossella Izzo. E, quella lì erano 7 puntate di quella fiction. Poi crescendo ho fatto piccole cose su Iris, su Squadra Antimafia, eccetera, eccetera. Però sempre piccole cose, perché comunque non c'è io il tempo di dedicarsi, non c'è il tempo, io non scegliere. Ho il carattere giusto per cercare di, insomma, la tenacia per propormi, e quindi che si va può bene fare così. Chiara, per cercare di mettergli una fase maniacale un po' più energica, credo che non signore. Cambierà mai, non purtroppo. Cambierà mai purtroppo niente, no. Non no, ma ci sono sceso a compromessi, va bene così, ormai l'abbiamo accettato, sì. Beh, e la fase dell'accettazione così. È già un buon punto di comprensione, di cambiamento. Bene, esattamente. Abbiamo, domani questo signore non esce da casa, secondo me abbiamo distrutto una fase maniaco-depressiva terribile. Ma che sono arrivato tutto contento. Sono andato ospite alla Boys Anatomy, non è più quello di una volta, non è assolutamente incredibile, quello. Incredibile. Invece Harry Potter l'hai fatto. Harry Potter è sì, il prigioniero soltanto di Azkaban. Il prigioniero di Azkaban, sì. Chi eri tu? Stan Picchetto. Questo me lo ricordo, Pino. Stan Picchetto che è il bigliettaio del Pullman Fantasma. Sì. Che tutti voi conoscete, chiaramente. Certo, certo. Come non si fa a conoscere. Ne parlavo adesso con lei. Esatto. Dimmi, Rachele. Del nottetempo, perché noi abbiamo la nostra caporedattrice che non so che tipo di malattia abbia, ma... riesce veramente a sapere più cose di Dustin Hoffman in Rain Man. E allora noi ci ascoltiamo un momento di questo bigliettaglio del prigioniero di Azkaban. Ti ringrazio. A te. Ecco Simone Crisari, bigliettaio. Chi è questo? Tu chiedi? È Sirius Black, ecco chi è. Non dirmi che non hai mai sentito parlare di Sirius Black. È un assassino. L'hanno pure sbattuto ad Azkaban per questo. Come è scappato? Beh, è proprio questa la domanda. È stato il primo che ce l'ha fatta. Era un grande sostenitore di... Tu sai chi? Ne avrai sentito parlare? Eccolo qua, questo era il bigliettaio. Però va bene, far parte di un percorso di film importanti, queste saghe. Io adoro, io Harry Potter lo adoro proprio. Non devo dire la verità. Io non. Ma sì, un po' così. Tu, Chiara, hai piaciuto la saga di Harry Potter? Io me li sono guardati, anch'io non sono una grandissima appassionata. Mi divertono, mi piace questo maghetto un po' pasticcione, insomma, che cerca sempre di trovare una soluzione. Questo occhialetti che c'ha sempre ragione lui, mi pare il primo. A parte ragazzo, ha una sciarpa bellissima, lo possiamo dire, Pino? Perché è giallo rossa. Una sciarpa meravigliosa. Vedete, una trasmissione a livello nazionale che vince dei premi si va a finire poi sul regionalismo. No, era un era solo un dettaglio, per carità. No. Va bene, sentiamo un attimo, qualcuno ci dice: bravi, senza una buona dose di follia non viene fuori né bravura né talento. Grazie Walter, sì, anche questo sono d'accordo con te, quando sono cose belle sono sempre d'accordo. Sì, esatto. C'è anche un altro momento di Russell McCann Culkin. No, come si chiama il bambino? Quello. Macaulay Culkin di Pagemaster, subito dopo il Mamma ha perso l'aereo, doppiato invece dalla nostra amica Ilaria Stagni. Un paio d'anni dopo, credo. Tu l'hai seguito fino alla sua allontanamento. Fino al suo allontanamento dal mondo droga. Del lavoro. Esatto, ascoltiamolo The Pagemaster. Va male, va proprio malissimo. Eri piccolissimo, sentiamolo. Dov'è che mi ha fatto perdere la bussola? Dov'è, per mille diavoli? Dov'è che lo sbudello? Ah, sei tu il moccioso che mi ha giocato questo bieco tiro e senza neanche chiedermi scusa! Sei narrativa o saggistica? Sono Richard Tyler. E che razza di libro saresti? Io non sono un libro. Lo puoi dimostrare? Vedi? Qui c'è il mio nome. Oh, il tesserino della biblioteca. Oh, ti chiedo scusa, figliolo, non sapevo che fossi un cliente. Senti, io vorrei soltanto uscire di qui. E a chi lo dici, figliolo? Lo vorremmo tutti. Ma questa è una biblioteca, figliolo. Le cose non sono come sembrano. Beh, anche qui piccolino, la voce però bella, sì. Argentina, ma anche bravo, perché lui non è un attore facile, no, era molto bravo già, no, poi si è perso, era, va bene, ma... Era metà cartone animato e metà film. Sì, erano dei primi esperimenti. Quindi comunque anche doppiare un cartone animato, come tu sai bene, non è semplicissimo. Sembra una cosa più facile, ma non è così, doppiare un cartone è più complesso perché devi dargli un'anima che mai in quel momento lui non ha. Dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo... Ah sì, però volevo parlarci compiutamente, vabbè, posso preannunciarlo poco prima del blocco che riguarderà questo grandissimo attore, che è di più regista, scenografo, musicista e quant'altro. È un punto di riferimento non soltanto mio, ma veramente di tutto grande, di tutti, il popolo che ama il teatro. Grazie a lui molte persone sono tornate a teatro tanti anni fa. Lui è Gabriele Lavia. Benvenuto, Gabriele. Ciao Pino, come stai? Molto bene, senti la... abbiamo vicino, ho una psicologa bravissima che è Chiara Comastri, è un bravissimo attore doppiatore Simone Crisari, per questo la psicologa ovviamente mi accompagna per l'articolo 180, non mi lasciano solo per radio, capito Gabriele? Fanno bene. Grazie. E con lei parleremo dopo di psicodizione e quant'altro. Ecco, allora Gabriele, resta con noi un minuto e poi parleremo di questa meravigliosa avventura dell'uomo dal fiore in bocca e non solo. Allora, a tra pochissimo con Gabriele Lavia, ovviamente ancora vicino a me Simone Crisari e Chiara Comastri, a tra poco con voi Sanato. Sanatomi. Bentornati e con grande piacere che riprendo il colloquio appena cominciato poco fa con Gabriele Lavia. Gabriele, tu ti trovi adesso a Firenze. Dove sei? No, mi trovo a Milano. a Milano adesso. Scusa, al Teatro Franco Parenti, scusami. Sì, sì, sì. Prodotto dal Teatro da Pergola, eccetera, per questo ho confuso. Tu sarai lì dal 9 al 19 febbraio di quest'anno, ovviamente con L'uomo dal fiore in bocca e non solo, di Pirandello. Io ho avuto il piacere di amarti al Quirino a Roma, adesso sei lì, come sta andando? Della scena. Sì, una scena importantissima, bellissima, straordinaria, insomma, imponente, una stazione ferroviaria pazzesca. No, no. Sì, una vera stazione. Sì, è vera, manca veramente soltanto il treno, perché una sala d'attesa ce ne fosse così nelle nostre stazioni. Però bella, sembra dove il tempo si è fermato. Ma tu sei sempre stato molto attento ai tuoi spettacoli. Io l'ho sempre soprannominato è il cinema a teatro, non per togliere qualcosa al teatro e aggiungendolo col cinema, ma perché è tridimensionale, è un vero teatro che i ragazzi, solo così si può riamare il teatro, e Gabriele è uno degli ultimi esponenti di questo tipo di teatro completo. Poi sei veramente attento a tutto e maniacale, Gabriele. Può essere che cos'è, psicologo? Un limite o un pregio quello di essere così precisi? Lei sta parlando con una ex balbuziente, e balbuzienti si sa che sono molto pignoli, quindi assolutamente è un pregio. Allora mi dispiace, Gabriele, mi dispiace, ma è un pregio, non è un limite. Ma sai, la psicologa lo sa meglio di tutti noi, ogni limite è la propria libertà. Assolutamente. Beh, ragazzi, qui è una guerra di aforismi. Sta assolutamente parlando con me, che ho fatto della mia vita questo motto, quindi da ex balbuziente veramente che ha dovuto scalciare con questa difficoltà, persona che ora libera anche gli altri da questa gabbia, quindi assolutamente sì. Tu non ci posso credere che lei fosse balbuziente. Grazie. E adesso insegna psicodizione, poi ne parleremo infatti subito dopo, sì, il tuo intervento. Tu hai avuto mai problemi di dizione, Gabriele? Oppure tu già da piccolo, quando sei nato, hai fatto uè, uè, cioè eri già così? No! No, non ho avuto problemi di dizione, neanche di pronuncia, perché nella mia famiglia mio padre aveva sempre la mania di parlare l'italiano perfetto. Che ci bello. Affliggeva con primavera, bosco, disposto, orco, sì, sporco, tutte le... ci affliggeva con queste cose, per cui quando decisi a un certo momento, con grave nocumento per la famiglia e anche per me stesso con gli anni, di fare il teatro, non fu un problema quello della pronuncia, della dizione, fu l'unico non problema, ecco. Mi devi promettere una cosa, Gabriele, come starei a Roma ti farai una passeggiata qui a Radio 24 per parlare un po' di te, eh? Va bene, no. Faccio con piacere. No, è bello. Dove vi trovate? Noi adesso siamo a Piazza dell'Indipendenza, erroneamente chiamata a Roma Piazza Indipendenza, che non la trovi, ma è Piazza dell'Indipendenza 23BC, che è proprio il palazzo del Sole 24 Ore, dove risiede sia... Piazza dell'Indipendenza. Ti vengo a prendere, Gabriele, vengo io a prenderti. No, tranquillo, non devi fare un passo, assolutamente no. Senti, L'uomo dal fiore in bocca, e non solo, non solo perché racconti altre novelle... Non solo per questa ragione, L'uomo dal fiore in bocca, Pirandello lo trae da una novella intitolata Caffè notturno. Sì. Quando Ruggero Ruggeri gli chiede un pezzo da fare dopo lo spettacolo, come si usava una volta, recitare o delle poesie oppure fare un atto unico molto breve, Pirandello prende questa novella, non apporta nessuna modifica, gli cambia solo il titolo, L'uomo dal fiore in bocca. Ecco. Pirandello sa che ha scritto il suo capolavoro, un capolavoro, diciamo, è un testo filosofico, se vogliamo. Che cosa racconta questo testo? Racconta la impossibile situazione dell'uomo ad accettare che la vita, se è vita, contiene in sé la morte. Mm-hmm. E questo, francamente, noi riusciamo a sopportarlo solo perché non ci pensiamo. Esatto. Perché francamente noi pensiamo solo a vivere, non pensiamo che noi viviamo soltanto perché alla fine, speriamo molto molto tardi, si deve pure, che rottura di palle, dillo, morire. Sì, che bello, non l'ha detto Pirandello questo. No, però non l'ha detto, ci ma... sta, ci sta, Gabriele. Ora, come questo atto unico durerebbe un quarto, sì, d'ora, per renderlo teatro ho interpolato alcuni pezzi di novelle che parlano comunque della morte o della donna, che per Pirandello sono due entità metafisiche a livello metafisico inscindibile, la morte e la donna. Punti in contatto con questa situazione morte e donna? No, ma ovviamente a livello metafisico, certo. Non a livello fisico, non è che Pirandello pensasse che le donne fossero la morte o viceversa, e la morte, certo, fosse la donna. È che nella sua vita Pirandello ha avuto delle esperienze che lo hanno portato a considerare il sesso e quindi la femmina afferente, tangente alla morte. Tra tutte l'esperienza infantile che forse non si ha ora il tempo di raccontare, che lui fece proprio da bambino, piccolo, quando, entrando in un fondaco dove era deposto il cadavere di probabilmente un poveraccio che la carità popolare aveva rivestito, probabilmente gli aveva messo delle scarpe che non possedeva questo povero, forse delle scarpe fuori misura, perché il piccolo Pirandello se le ricordava come piedi enormi. E quando entra in questo fondaco di nascosto, disobbedendo alla sua cameriera, entra in questo fondaco, vede il morto e dopo un po' sente come un fruscio, come un soffio, come un ansimare, e credendo che questo soffio, fruscio, ansimare provenisse dalla salma, si nasconde in un angolo. Poco alla volta gli occhi si abituano al buio e Pirandellino vede nel buio, contro un muro, una donna che ha un vestito di seta, le cui gonne sono sollevate quasi sopra la faccia, e contro di lei un uomo, e si muovono e ansimano, e il vestito fa il fruscio della seta. E lui non sa che cosa stiano facendo i due, lo capirà dopo, ma da quel momento Pirandello, e questo lo dice proprio lui perché firma la pagina della sua biografia dove è riportato questo aneddoto, Pirandello legherà sempre il sesso alla morte. Alla morte. Beh, poi dite, ecco, questo è essere evocativi. Cioè, Gabriele, sicuramente. Cioè, quanto pagheresti, Gabriele? Viene a raccontare una tu che non riesci a dormire la notte, di qualsiasi età. Gabriele, fare il pronto intervento. Fai meglio di questa storia, sì, che proprio, no, ti manda in mondi. No, meravigliosi. Sì. È un grande, veramente. Il sogno di un uomo ridicolo, Gabriele, lo riprenderai. Quello è uno spettacolo che ti ha accompagnato da sempre, no? Ogni tanto lo faccio, ma non più come spettacolo, perché non ho più la forza di farlo. Non dire bugie. Lo faccio come serate speciali. Sulla sedia, ma mi dicono che viene meglio. Su una sedia non lo fai. Ce la faccio più. Ma come non ce la fai? No, Gabriele, non mi lasciare così. Tu non dico che tu debba scendere come Franz dallo spaccato di un castello, no, come i Masnadieri, no, in equilibrio, no, per no, carità. La tua età, caro Pino, purtroppo. Io non ho la tua interpretazione, mio caro. Se ci riuscissimo a fondere un giorno, Gabriele, ti do la mia età, tu mi dai e tutto il resto. Stavamo veramente, sarei veramente felice. Gabriele, veramente io ti ringrazio di questo intervento bellissimo che ha regalato un tono tridimensionale a questa domenica e a questa trasmissione. Spero di abbracciarti di persona, averti qui ospite e raccontare come soltanto tu sai raccontare. Nel frattempo ti faccio tanto in bocca al lupo e tanta merda, come si dice nel teatro, per questa avventura a Milano al Teatro Franco Parenti dal 9 al 19 febbraio con l'uomo dal fiore in bocca e non solo. Gabriele, ti auguro ogni bene, grazie per quello che ci regali. Un abbraccione forte. Ciao Gabriele. Ciao. Beh, la bellezza. Ah sì. Cioè, riesce veramente ad ammutolirmi e non le è facile. Che creano. Simone. Uno spettacolo teatrale ha fatto. Beh, io raccontando una cosa. Sì, stai così. Io ho imparato questo mestiere rubandolo, non voglio parlare di me perché sono il conduttore, però Gabriele rappresenta veramente un punto di riferimento. Io mi nascondevo al Teatro Eliseo nelle sedie e imparavo rubando dalle sue regie. Lui non lo sapeva, ma io avevo un amico nella sua compagnia, per cui andavo lì giorni, mesi, interi a vedere la costruzione. Ti nascondevi lì? Sì. Che bello. Per cui all'inizio recitavo come lui, nel senso, fra virgolette, andavo ad imitazione. Lui e Proietti per le cose comiche. Per cui quando ho fatto il provino al centro sperimentale, Vinalisi mi disse: ma questo è Proietti? Ma questo è Gabriele Lavia. Sì. Cioè, io quello, per me quello era rimasto da ieri, era quello, io recitavo in quella maniera. Però lui è straordinario, il sogno di un uomo ridicolo era pazzesco, e Dostoevskij lui dice che non ce la fa, ma anche da fermo è straordinario. Ecco, questo è il potere evocativo della voce, sì, no? Sì, sì, sì, sì, sì, che è bello, sono sì. le intenzioni. Questo farebbe amare a chiunque il teatro, perché i ragazzi hanno paura del teatro. Hanno paura. Una delle statistiche belle che io ho in psicodizione, per esempio, che è proprio questo approccio che porta le persone con difficoltà di balbuzio, con un passato di balbuzio, a diventare buoni comunicatori, è che c'è una statistica altissima di ragazzi, ragazzini e adulti che dopo il corso decidono di iscriversi a corsi di teatro. Certo, guarda, tanto ne parleremo adesso, sì, Chiara. Sì. Simone, io Pino, ti ringrazio di tutte le tue dimenticanze e dei nostri errori, ma soprattutto quelli di Mauro Meconi, perché è bellissimo. Lui che ha scelto di parlare della leggenda dei Nibelunghi 2. Un film meraviglioso, peraltro. Buonasera, ce lo vediamo a casa insieme. Ma non è vero, non ti ricordi neanche una scena. Ma non ero io, Pino. Ho capito, che devo fare? Ma non mi ricordo neanche il primo io. È andata così. Che stai facendo adesso? Che serie? Atlanta, abbiamo Atlanta, detto, bellissimo. Detto. Atlanta, che non è quella che gioca a Bergamo, è un'altra storia. Bravissima, quella esatto. è Atalanta. Atalanta. Che è. Esatto. No, Atlanta in realtà è finita. Sì. La prima Quindi, stagione sì. Sto finendo l'ultima stagione di New Girl, che è un'altra serie meravigliosa, sì, comica, che va su, sempre su Sky. E un'altra serie che si chiama Brooklyn 99, poliziesca comica. Io faccio un commissario molto cretino, infatti lo faccio io. Esatto, hanno fatto voce molto, molto. Esattamente, cioè, quello Crisari. Ormai vedete, ormai sono le serie quelle che fanno il lavoro. Ma anche per gli attori americani, ormai la serie è la svolta della loro carriera, perché è così. Andiamo in America. Crisari, ti ringrazio. Grazie, oggi Pino. Sei tranquillo perché la tua squadra gioca martedì. Non so di che parli, pensa, quindi proprio non... Però ci sono 3 derby questo mese. Oddio, ma perché? Ma che bisogno c'era di andare a fare quella cosa lì? Non lo so. Voi avete segnato al 91esimo. Noi sì, ma voi perché a Milano? Vabbè, andare ma questa a fare la trasmissione, ma poi ne parliamo che dopo volta. Con Capuano e tutti i convocati. Ne parliamo un'altra volta. Simone Crisari, grazie a tutti. Grazie, rimaniamo con Chiara Comastri e con voi ci sentiamo fra pochissimo. Restate con Voice Anatomy. Ciao. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 15:32 primi e 56 secondi. Questa volta è sola con me Chiara Comastri. Sono arrivati già tantissimi messaggi, sai? Bene, buongiorno tantissimi. A tutti. Allora ve la racconto. Voglio anche una musica bella di sottofondo. Voglio presentarla come un trailer. Ci sei, Alessandro? Vai. Chiara Comastri, psicologa, insegna da più di 18 anni nel campo della balbuzia e dell'educazione del linguaggio. Ha creato un suo metodo, psicodizione, che insegna in tutta Italia per aiutare le persone a risolvere il problema delle balbuzie. Data l'efficacia di questo progetto, forma operatori ASL per il progetto LALLA a Brindisi e per il Collegio dei Logopedisti di Aragona, in Spagna. Questa è Chiara Comastri. Buonasera a tutti. Beh, come vedi che ti intoni anche tu. Buonasera. Allora, buonasera. Arrivano tantissime cose. Tanto mi dicono di comunicare a Gabriele Lavia la massima stima e il suo lavoro incredibile, è vero, per V per Vendetta. È doppiato Gabriele, te ne sei regalato, l'abbiamo fatto. Grandi doppiatori l'Italia, penso che l'imperatore è stato e resta Tonino Accolla. Assolutamente parleremo di lui in una puntata speciale, lo ricorderemo con grande affetto. Pianzi quando ci lasciò, a me ci ha lasciato tutti un po' così. Evviva tutti i doppiatori, forza Roma, così l'ha aggiunto alla fine. Va bene. E invece veniamo a te. Scusa Pino se uso la tua trasmissione Pro Domo Mea. Sapete che noi abbiamo degli ascoltatori veramente straordinari che ci tengono a sottolineare la mia ignoranza. Io sono balbuziente, mi hanno detto che è una forma di stuttering. e mi hanno consigliato l'elettrostimolazione magnetica. La psicologa Chiara Comastri conosce questo trattamento? Può servire? Stefano da Firenze. Cominciamo subito così, già subito con una, qualcuno che ti chiede... Stefano, devo risponderti oppure posso prima raccontarti qualcosa di più? Perché... Esatto, queste sono le domande. Perché dirti... così lasciarti con i puntini di sospensione mi dispiacerebbe. Conosciamoti invece prima, ecco, partiamo proprio da te. Tu hai raccontato proprio all'inizio la tua storia personale. Tu nasci come bambina balbuziente. In realtà nasco come bambina che parlava benissimo. A un certo punto, intorno ai 3 anni, ho iniziato a balbettare. La maggior parte dei bimbi che sviluppano balbuzie, queste disfluenze primarie evolutive, in realtà non hanno un trauma che scatena l'inceppo, semplicemente che diventano molto bravi a comunicare a livello molto più complesso. E non è un caso che ci sia l'innesco dei primi inceppi fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e mezzo. E da lì è come se il pensiero fosse pieno di cose da dirti, da raccontarti. Il pensiero va più veloce della parola. Sì, e la parola è un po' lenta, no? Nel senso che la faccia è lenta, la lingua articola poco, la respirazione non ho mai imparato a controllarla, figurati, sto crescendo. Quindi c'è proprio la parola che sta un po' più arretrata rispetto al pensiero. Questa è una cosa molto importante quello che dici, perché per molta gente erroneamente magari possa... pensare un genitore che ha un problema psicologico, qualche trauma, eccetera. Invece c'è non una è, parte c'è psicologica, parte nel senso che sicuro. In realtà c'è una piccola percentuale di bimbi che proprio a causa di un trauma, ok, sviluppa balbuzie, per cui può essere un brutto sogno, può essere che mi rompo un dito cadendo dalle scale, può essere una grossa sgridata, un problema familiare, okay, un distacco essere, improvviso. Però la maggior parte dei bimbi che sviluppano balbuzie invece iniziano da una parte più che altro meccanica, quindi iniziano con le ripetizioni all'inizio della frase, o gli allungamenti poi vanno come dei treni, sempre all'inizio di frase, e poi il problema inizia a esserci quando il bimbo inizia a rendersi conto dei propri inceppi. Perché quando si innesca la consapevolezza, ecco che si inizia a scivolare nella balbuzie, quella comunemente definita, nel senso che proprio diventa una percezione interna. Io mi rendo conto dell'inceppo già nel pensiero, e questa è la balbuzie, e nel tentativo di risolvermi questo inceppo rallenti ancora di più. Poi la disfluenza che si sente a orecchie. Ci sono degli attori straordinari che soffrono di questo Filippo Timi è pazzesco, sì. Ma poi in scena è si trasforma. È fluido, ma è soprattutto Vinicio denso. Macchioni, anche sì. Vinicio sì. Addirittura mi diceva, io riesco... mi scatta la balbuzia quando la frase non è giusta, non è scritta bene, allora parlo con lo sceneggiatore, l'aggiustiamo e la balbuzia scompare. Ecco, questo è un altro tipo di automedicazione. Beh, il grande Lewis Carroll, che ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, diceva: trovate il senso e le parole andranno a posto da sole. Ecco. No? E questo dice tanto, perché nel momento in cui tu veramente dai senso alla tua comunicazione, ci sei dentro, porti un messaggio che non siano semplicemente lettere da appiccicare l'una all'altra, ecco che sei veramente con l'altro, vuoi veramente trasmettere, la balbuzia non può esserci in quel caso. I nostri politici dovrebbero essere tutti balbuzienti allora, perché non riescono ad avere un senso. Sì, esattamente. No, allarghiamolo a tutti i livelli, no? Sì. Dovrebbero veramente incepparsi ogni 2 secondi, visto che non ha senso. Ma ebbene, tu hai scoperto questa cosa, cioè l'hanno scoperto i tuoi genitori, ovviamente. Sì. Ed è stato un piccolo grande trauma per te. Un piccolo grande trauma. Che è stato lo startup proprio della tua vita. Poi. Sì. Nel senso che a distanza di tempo, una volta risolta, iniziando ad aiutare altre persone, ragazzi, adulti, a superarlo. Ecco, quando l'hai scoperto questo, che potevi, nell'età ovviamente evolutiva, qualcuno ti ha aiutato? Io ho iniziato a lavorare. No, guarda, io ho provato tantissime strade, nel senso che io dagli 8 anni ho provato l'omeopatia, però continuavo a balbettare anche se ero più calma. Poi ho provato corsi specializzati dove mi facevano lavorare sulle cantilene, addolcimenti delle consonanti. Che hai perso la balbuzia, ma è una rottura di palle ascoltare. E soprattutto non ti senti te stesso, no? No, e certo, quindi è un no. Caos. Oppure lavorare dietro a metronomi, per cui anche questo, oppure il percorso psicologico, quindi da una psicologa per cercare di parlare dei tuoi nodi irrisolti, eccetera. Però in realtà io continuavo a sentire il blocco in mente quando ero sotto ansia, sotto agitazione. La classica persona che balbetta è una persona che parla benissimo di solito, tranne. E il tranne ha a che fare proprio con la difficoltà che tu puoi avere quando qualcuno pensi che ti valuti all'interrogazione. Sono attacchi di panico questi? No, però sicuramente l'ansia gioca un brutto scherzo, diciamo così. Per qualche bimbo, per esempio, può essere la sovreccitazione. Certo. ho fatto una festa di carnevale che ti devo raccontare, e mi dà gli stessi effetti magari della preoccupazione, no? Quella sovraccitazione, quella foga di volerti dire tante cose. La stanchezza alcune volte porta, no? All'inceppo, la fretta. E quindi la cosa bella in psicodizione è che poi vai a lavorare sull'imparare a usarla, quell'ansia a tuo vantaggio, e quindi torni a essere causativo sull'emozione, no? Invece che subirla, o rilassarti per poter parlare bene, perché anche questa è un'altra delle strategie, no? Che viene consigliata, ahimè. Rilassati, stai più calmo e vedrai, certo, che parlerai bene. Però il problema è, anche ci riuscissi, perché io ho fatto training autogeno, c'è chi fa yoga, c'è chi fa di tutto, no? Per cercare di rilassarsi, ma anche ci riuscissi, perché io devo parlare bene solo quando sono calma e tu puoi parlare bene quando sei calmo, quando sei arrabbiato, quando sei ansioso, quando, esatto, sei frettoloso? No, grazie, vorrei essere libera anch'io di parlare sotto rabbia, sotto ansia, sotto quel che c'è. Ma sarebbe con me adesso, Chiara, però. No, adesso non la rabbia. Presa bella, è andata su. Senti, e tu quando ti sei svegliata un giorno e hai detto, ok, sto parlando? Io ho fatto veramente di tutto, e a un certo punto ho deciso di mettere sulla mia esperienza una ricerca, nel senso che io ho iniziato veramente a voler capire intorno ai 20 anni 22. Avevo iniziato con un percorso che attraverso un metronomo mi ha dato i primi risultati, perché io ho iniziato a sentire che il pensiero poteva quantomeno sotto pressione rimanere quello che avevo pensato, cioè io esprimevo quello che pensavo, che era già tanto nello stesso momento, però in realtà sentivo lo stesso blocco in mente. Io sentivo il blocco e dovevo, con quel tipo di approccio, cercare di allineare tutto quanto senza allungare le vocali alla fine, eccetera. No, per fortuna. Però a un certo punto io non volevo più sentire il blocco in mente, cioè la mia ricerca è andata a voler essere libera di comunicare qualsiasi cosa nell'esatto istante in cui pensavo quel qualcosa. E quindi ho iniziato a fare percorsi di comunicazione, di crescita personale, di leadership, di tutto quello che c'era, giusto per crescere come persona. E ho iniziato a sperimentare come l'ansia la potevo veramente imparare a usare. Quando poi quel modo di usarla, ecco che funzionava anche per altri ragazzi, per i bambini, per gli adulti, allora ho detto, no, sai che c'è? Vediamo di creare qualcosa che possa essere un percorso funzionale per tutti, per uscire fuori dalla gabbia, no? Hai esorcizzato te stessa, sì, creando un metodo. Sì. E la cosa bella è che oggi in psicodizione i miei insegnanti, Anselmo Zoccali, Giuseppe Quaratino, insomma tutti i miei collaboratori, sono persone che sono stati i primi miei alunni. Quindi persone balbuzienti che, una volta risolto con psicodizione, formate su quell'area, adesso psicologi, stanno studiando, eccetera, eccetera, però lavorano perché sono passati dall'altra parte. E ci sono moltissime teorie e tecniche che invece partono dal presupposto che la balbuzia non si possa risolvere mai, no? E quindi è assurda questa cosa, perché allora perché io ho risolto, i miei ragazzi risolvono, cioè una qualcuno cosa... Durante la mia infanzia, che ti parlo veramente degli anni 60, diceva, a balbuzia operiamolo di tonsille. Qualcuno è stato operato di tonsille perché era balbuziente, mi ricordo. Pino, io ti dirò un'altra cosa che avviene già nel 2016, ok? Ah. Non andiamo tanto indietro. Ah, mamma. Sono stati fatti più di un intervento tagliando il filetto sottolinguale. Oh. Ma proprio, cioè, capito, non siamo nel Medioevo, ma pensano di risolvere la balbuzia tagliando il filetto sottolinguale, che la persona poi si ritrova con la lingua, con che la lingua libera in bocca, molto meno controllata, e in più balbetti, quindi veramente oltre il danno alla beffa. Per succede cui, anche questo? Sì, ma perché la balbuzia è molto mal compresa. Cioè ci sono delle definizioni di balbuzie, tante, troppe, quindi già ci fa capire che è stata mal compresa. Chi pensa sia un problema di respirazione, non lo è. Chi pensa sia un problema di linguaggio, non lo è. Chi pensa sia un problema solo di ansia, in parte sì, ma non solo. Un problema genetico, un problema in realtà, perché si basano sull'effetto che causa la balbuzia, osservano quello che causa la balbuzia, non cosa essa sia. La balbuzia è una percezione interna, cioè io voglio dire, domani vado al mare, domani vado al, e sento in mente che la M di mare sarà inceppata. Quella è la balbuzia, e tu, ascoltatore esterno, non ti sei ancora accorto che io ho già avuto il blocco di balbuzia, perché è nei miei pensieri. Dal momento in cui sento la M di mare inceppata, è chiaro che lì devo andare a lavorare sul cercare di uscire fuori, trovare una strategia per liberarmene. E quindi domani vai vado in montagna. Magari domani vado al mamma mare, domani vado al mare, faccio uno sforzo, sì, fisico. Sono tanti tipi di balbuzia, domani, sì. domani vado al mare, prendo la rincorsa sulle parole prima, aggiungo parole, domani vado al, ecco, dunque, allora, cioè, praticamente, sì, allora, cioè, al mare. Oppure vado di sinonimi, domani vado al, in spiaggia. Oppure inizio a parlare tutto a scatti, così mi mangio le parole, perché anche questo è un modo per approfittare del momento in cui il pensiero ti dà il via libera, e quindi senti la porta aperta e vuoi dire tutte le cose che hai in mente nell'esatto istante. Quindi cerchi a un certo punto di sbarazzarti di tutto quello che vuoi e tendi a parlare in questo modo molto faticoso. Signori, Chiara Lomastri e Gabriele Lavia delle balbuzie. Wow, no, non me l'ha mai detto nessuno, ma mi prendo l'onore. Ma no, è così, perché anche tu sei una grande affabulatrice, nel senso non che racconti storie o favole, ma la cosa tu lo sai, fai comunicazione, prepari anche grandi manager per affrontare un pubblico, cosa che io conosco perfettamente, e questo dà speranza. Sì. Cioè, adesso vai più veloce con le parole che col pensiero, ti sei resa conto? Adesso vado abbastanza parallela, c'è mia nonna che mi dice: oh, ma sei come una macchinetta, vai più piano, quindi mi devo concentrare ogni tanto. Beh, ma insomma, in realtà... non ho trovato nessun inceppo. No, rischi una persona che correre così tanto di mezzo. Hai detto dei concetti straordinari senza fermarti un attimo. Certe volte uno rischia magari di perdere quell'intenzione per rendere più capibile quello che uno sta dicendo. Sai meglio di me che poi di un concetto di una conversazione soltanto l'8-10% è il concetto della conversazione, il resto è voce e corpo. Certo, questo ormai da studi scientifici, non dico, cioè, vabbè, però sì scientifici. Beh, hanno fatto tanti studi per cui arriva. Noi qui anche abbiamo fatto delle analisi con Cossu, proprio dello studio dei nostri politici, togliendo le consonanti, studiando il diagramma vocale. Fantastico. E vedere che cosa arriva. Pensa che durante il percorso di psicoedizione... aspetta, dobbiamo andare in pubblicità. Aia. Cioè, saremo insieme ancora, Allora, tra si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa. Non è una presa in giro, ovviamente, per chi questo ha questo problema. Ovviamente è un modo di giocare e rendere un po' più leggero il tutto. A tra pochissimo e risponderemo anche alle vostre domande. Mandatecelo, abbiamo qui il medico, abbiamo la psicologa che ci salverà. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Chiara Comastri qui al mio fianco, la nostra brava psicologa, ex balbuziente, ora grandissima insegnante per risolvere questo problema, e non solo, grande comunicatrice. Qui arrivano tanti messaggi, ovviamente non possiamo fare un'anamnesi radiofonica e salvare i nostri radioascoltatori, però insomma, se avete dei figli che hanno piccoli problemi, eccetera, invece di essere invasivi o terrorismo, usare questa parola, eccetera, per soffrire di più di quello, è giusto che ci facciate qualche domanda. Ho avuto un alunno balbuziente, faticoso interrogarlo senza metterlo in imbarazzo, ma quando leggeva la poesia latina in metrica non balbettava più, dice Sofia. Può essere. Tenete presente che le persone che tendono a balbettare in realtà sono veramente di solito buoni comunicatori e hanno delle aree magari dove hanno più difficoltà, e non è detto che siano uguali per tutti. Per esempio, io quando leggevo in pubblico balbettavo tantissimo perché non potevo usare i sinonimi, perché tutti avevano il segno, non potevo aggiungere parole che mi facessero da scivolo. Sai anche come... legge, questa è una cosa, ecco, non ci avevo pensato. Sì, che la leggere in pubblico per me era veramente... L'ansia era sì, da prestazione, dominante. Assolutamente, il timore del giudizio, cosa pensano gli altri. Ma ci sono altre persone che balbettano parlando, e quando leggono, per esempio, non balbettano, un po' come questa esperienza. Persone che, per esempio, balbettano di più in famiglia e meno all'esterno, o completamente il viceversa. Cioè, dipende molto per cui da dove... Come fai a capire qual è la causa? Cioè, devi andare a vedere che cosa significa la balbuzie, poi, non le balbuzie. La balbuzie. È strano, sì, effettivamente sì. Guarda, io sono una psicologa, i miei collaboratori sono psicoterapeuti o psicologi, oltre che educatori, eccetera, però nessuno di noi va a lavorare ormai più sulla causa, perché anche risolta non è più attuale, magari non è più per quello che tu balbetti. Bisogna lavorare oggi sull'effetto, per la bisogna prima volta bisogna lavorare sull'oggi, bisogna lavorare sull'azione. Sono una psicologa un po' sui generis, magari, in questo senso, nel senso che io faccio fare, do strumenti perché loro possano nella vita affrontare situazioni, tornare a essere padroni di quelle situazioni, magari in presenza del timore di sbagliare. Vado a prendere un cappuccino, magari ho tutti i miei fallimenti vecchi su quella di cappuccino che mi premono mentre sono lì dal barista, ma io veramente passo attraverso quel fantasma dicendo: vorrei un cappuccino. Quindi inizi a costruirti una nuova realtà mentale, inizi a costruirti il fatto che hai una competenza che porta fuori la tua causatività. Il brutto della balbuzie è il fatto che non sai mai quando ti può capitare. Cioè, anche quando tu magari parli bene, ordini bene qualcosa al bar, non è che ne gioisci, perché magari sai che adesso ti è andata bene, ma domani come andrà? Boh. E quindi sei sempre lì nell'imprevisto. Non per cui trovi una strada per ognuno, cioè ognuno avrà una strada diversa. Ognuno ha una strada diversa per lavorare sulle proprie ansie, le proprie paure da affrontare. Ma per rimettere in vita la naturale comunicazione, invece, la strada è una. Perché? Perché tutti noi siamo buoni comunicatori. Io parto dal quel presupposto. Ognuno di noi è nato un buon comunicatore. Tanto è vero, dico sempre io, che se ognuno di noi è sopravvissuto senza parola ai primi mesi, ai primi, vuol dire che ha mandato messaggi ai genitori per dire ho fame, ho sonno, sono stanco, le coliche, cioè vuol dire che sapevi farla quella cosa lì. Poi è arrivata la parola, poi è arrivata la paura di sbagliare, le inibizioni, okay, esatto, le timidezze, cominci a coprirti quando sei nudo, assolutamente. Ma guarda che quello è il problema. Quindi io vado a lavorare sulla parte sana, rinforzo la parte che già è lì, in realtà non faccio altro. Io dico sempre che non si risolve la balbuzie imparando un metodo, si risolve la balbuzie diventando di nuovo buoni comunicatori, perché quello ti permette di essere veramente con l'altro. Tu prima dicevi fantastico l'attore che balbetta tipo Filippo Timi e poi sul palcoscenico è fantastico, sì, perché sei dentro, sì, in parte perché c'è anche il copione che magari ti rende più semplice, più prevedibile, la vita è chiaro che è imprevisto, ma sei dentro a quel ruolo, sei lì che non lasci neanche un millimetro di vacuità, sei lì a voler trasmettere, e questo è l'essere buoni comunicatori. Quindi la voce in questo senso rappresenta veramente quello che sei. Il teatro può aiutare questo ai ragazzi, lo psicodramma eccetera, cioè fare teatro a scuola, parlare, guarda eccetera. Io su questo ho esperienze completamente contraddittorie. Ci sono in parte ragazzi che hanno tentato con il teatro di risolversi un po' la balbuzia, e si sono inibiti ancora di più, e si sono inibiti ancora di più perché avendo il blocco di fronte al pubblico, di fronte peggio alle prove ancora, coi compagni, sono andati in tilt completamente. E qualcuno che invece ha sentito sollievo perché ha in quanto meno imparato a gestirsi un po' meglio l'ansia, sebbene poi nella vita continuino a ballettare. E tu hai mai fatto teatro? Non ho mai fatto teatro, ah, sarà dai, chissà, è una cosa che farò da grande. Ah, adesso ho 41 anni, canti? C'è ancora canto? No, non canto, sono pure stonata. Ma no, no, stonata non puoi esserlo. Non posso esserlo perché no, nessuno sei... è stonato. No, perché sei d'accordo, diseducata, quello bravo, è, bravo, è così. Bravo. Guarda, devi, puoi studiare di più l'impostazione vocale, come far muovere questa voce e non utilizzare soltanto la maschera o la testa, ma anche farla risuonare giù. Arriverà, arriverà, perché sono affascinata, ecco, chiaramente. Lo vedi quando parli tranquilla, hai detto arriverà, arriverà, ti sei abbassata. Arriverà, arriverà, ma passo ancora di più. Questa è di gola, attenzione. Ah, devi farmi dei, un po' di coaching su questo. Sì, no, no, ma è bello utilizzare, sì, sì, tutte e due, fantastico, le strade della programmazione neurolinguistica e la comunicazione non verbale insieme, si possono fare delle belle cose, sì, invece, sì, dei percorsi molto interessanti. Poi esistono veramente vari tipi di balbuzie. Io mi ricordo quando abbiamo doppiato il film di Woody Allen. Woody Allen è, per esempio, è un balbuziente strano, particolare, che il grande Orestino Nonnella ha saputo ridare completamente in Italia. In effetti Woody Allen riconosce in lui, che l'ha reso un attore migliore e l'ha veicolato in tutta Europa, perché ha fatto ascoltare sempre il doppiaggio in italiano per far capire come realmente erano quelle indecisioni, che non era un tartaglio, sono allungamenti, sì, di, sì, parole, e quando tu doppi un personaggio di quel film tu parli 9 ore al giorno, no, no, e poi ti voglio quando torni a casa, sì, non, sì, riesci. Quello è un tipo di balbuzia, sì, dato dall'isterismo, dall'ansia da prestazione. Woody Allen è un esempio pazzesco. Ho avuto la possibilità di fare da coach della voce a un attore, un giovane attore che si chiama Nico Mirallegro. Che bello! Sì, sì, Nico, sì, Mirallegro è bellissimo. È un giovane talentuoso, insomma, molto conosciuto negli UK, ma insomma, sì, sta prendendo veramente piede. E adesso il giovane regista Mirko Pincelli ha praticamente fatto un film molto bello che è The Habit of Beauty, l'abitudine alla bellezza, mm-hmm, che in Italia invece si chiamerà I nostri passi, e con anche Francesca Neri eccetera, e c'è appunto Nico Mirallegro che interpreta un balbuziente, che, e quindi Mirko Pincelli, il regista, mi ha chiesto proprio di fare da coach a lui, e io non l'ho aiutato a interpretare il ruolo, se l'è interpretato da solo. Io ho fatto un lavoro al contrario, facendogli sentire cosa sente un balbuziente quando parla, ah, e quindi la parte mentale, esce, no? Esce naturale a quel punto la balbuzia. Ed è stato bello vedere come nei giorni lui a un certo punto dice: Chiara, non devo più pensare a dove c'è il blocco, perché sento quando lo percepisco fisicamente, no? Per cui, oh, è stato molto affascinante. Ma come che tipo bello, di lavoro. Mi stai dicendo una cosa meravigliosa, perché noi qui nel cinema non abbiamo mai il tempo di interpretare, no? Soprattutto anche nel doppiaggio, tu entri in sala e 9, chi sono? Sei questo qua e magari stai facendo la storia di Ray Charles, piuttosto che, e non hai il tempo di essere non vedente, nero, eccetera, eccetera, sì, sì, e sentire, certo, quella rabbia di quella situazione lì. Per cui è pazzesco. Cioè, in America invece, in Inghilterra, in paesi anglosassoni, si riesce a dire: guarda, che fra 3 mesi, 6 mesi girare un film dove farai il tassista. Bene, vado a fare il tassista per un po' e capisco cosa pensa un tassista, che tipo di persone incontra un, sì, tassista, e fai taxi driver con Robert De Niro. Insomma, sì, sì, qui, sì, te lo dicono la mattina stessa, appena arrivi. devi interpretare quello che devi fare anche come attore. Mm-mm. Per cui è bello trovare il coach. Ma il film è internazionale nonostante siano attori italiani. Sì. È uscito al Festival di Roma di ottobre, insomma 2016, e uscirà nelle sale verso maggio, quindi siamo curiosi e in attesa, trepidante attesa. Curioso anch'io, anche per sapere che tipo di percorso ha fatto. Lui era credibile, per cui... Sì, assolutamente. Ma perché non lo chiamiamo? Ce l'hai il numero? Non ce l'hai. Poi adesso tartaglierà pure lui in qualche modo. Chissà, ho detto guarda, stai tranquillo che veramente se dovesse capitare possiamo fare qualcosa per rimettere insieme i coach, sì, come gli perché creati. Non vorrei dei danni, esatto. Ecco, aver creato dei danni. È un'ipnosi però che torna insieme un po' alla Erickson, sì. Sì, anche l'amico Bonomolis Paolo ogni tanto si impunta quando parla piano piano, però è straordinario perché ha mai utilizzato questa voce portata, veloce, altisonante, con 12.000 sinonimi, è l'unico presentatore che veramente ha 12 sinonimi per ogni frase. Già il balbuziente in generale, la persona che balbetta è un bignami dei sinonimi, sì, ci autodefiniamo, sì, perché è sopravvivenza per noi, per cui... Certo, cambi parola, giustamente, sì, come hai detto. Sì, poi prima. A un certo punto diventa veramente importante che l'altro che ti sta ascoltando non si accorga dei tuoi inceppi, per cui quando tu poi, anche durante il percorso di psicodizione che dura 7 giorni, il 4º giorno io metto già i ragazzi, i bambini o gli adulti che siano davanti a un pubblico, no? Li riprendo con la videocamera, in modo che loro già il 4º giorno possano toccare con mano il cambiamento. Signori, Chiara Comastri balbettava, incredibile. A tra pochissimo con Voice Anatomy, il nostro nuovo ospite è già qui, Andrea Perroni e le sue mille voci non balbuziente. A tra poco. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Sono Enrico Ruggeri, tutti mercoledì voleremo sulle ali di carta raccontando i grandi personaggi della letteratura. E partiamo con una grande donna, Penelope, la regina che ha aspettato per 20 anni il re, Ulisse. Alle 15:30 vi aspetto su Radio 24. Anatomy. Eccoci, la pausa è un po' più lunga perché c'era il GR, ho imparato a dire GR, non più TG, come... e ci ha raggiunto un altro ospite, a parte Chiara Comasti che è sempre qui al mio fianco e ci ha raccontato queste cose straordinarie, brava, anche molto bella. Grazie. Perché la vedete, no, sì, lo posso dire serenamente, è un complimento gratuito di un uomo, di qualcosa di più al mio fianco, alla mia destra, ci ha raggiunto invece una che non balbetta. Nessuno è perfetto, insomma. Sì, però è uno nessuno 100.000, lui ha altri problemi, cioè non è bipolare, è tripolare, è quadripolare, non so come presentarlo. Tu sei nato a Roma nel 1980, sei così giovane. Confermo. Tu a 16 anni inizi a lavorare come animatore. Sì, confermo. Confermo. La tua prima apparizione TV risale al 2003 a Domenica Inn come imitatore? Confermo. Colorado Caffè, guida al campionato, Zelig? Confermo. Tra le tue imitazioni più celebri, Antonacci? Grignani, Ramazzotti, Ligabue, Pelù, Pino Daniele, Franco Califano, Giovanotti. Confermo. Hai balbuziato. Devi premere bene il primo suono e tutte le consonanti fino in fondo. Puoi farcela. Okay. Ha un nome e un cognome questo uomo a mio fianco, Andrea Perroni. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie per avermi invitato. No, grazie a te di essere intervenuto un giorno importante prima di partire per Sanremo con l'amico Luca Barbarossa, con il quale stai vivendo. Col povero Barbarossa. Col quale stai vivendo questa avventura. Quanto tempo in quella. Sono sei anni e mezzo di Radio 2. Di Radio 2 Social Club, sì. Sei anni e mezzo, iniziato con Virginia Raffaele, me e Luca, poi si sono avvicendate Lucia Ucone, Paola Minaccioni. Però tu sei sempre rimasto. E poi siamo rimasti io e Luca. Un anno abbiamo avuto una parentesi con il povero Neri Marco Re e poi il povero Neri Marco Re. Io però sono stato sempre là, perché il mutuo finisce fra 4 esatto. anni, quindi... Hai parlato con Luca che mi abita di fronte. Chi poi? Si stacca da Luca, no? Ma scherzi. Io poi la prima volta che mi hai fatto ridere quando hai imitato Bombolo. Beh, che tu... Quella è stata la prima volta che ho riso con te. Una croce, sì. Sì. Beh, anche perché Pino mi ha visto veramente in fasce. E sì, quella è una croce delizia che mi porto dietro. E... com'è Bombolo, ti prego? Ma perché? Dai. Radio 24 Bombolo. Ma sì, perché? Ti prego. No. Dai, picco poco poco. Io ascolto sempre Voice Anatomy. È un programma che mi piace, anche se io con l'inglese ci faccio poco. Personaggio, sai, io non amo molto imitare le persone scomparse, no? Vabbè, ma scomparse subito... no, ma è bello invece ricordarle. Sono delle persone, certo, che è meglio non toccare. Però Bombolo è nell'immaginario collettivo di chiunque. Pensa che con Lillo e Greg abbiamo trovato una chiave per rifarlo, facendogli vestire i panni di un filosofo, il professor De Lechner, e abbiamo inventato per 610, che è un'altra trasmissione insomma fortunata di Radio 2, e abbiamo inventato questo filosofo che parlava di Jung, parlava di Hegel, piuttosto che insomma si occupava anche un po' di psicologia, lo dico perché ho e davanti, con quale voce lo facevi? Sempre con la voce di Bombolo, che parlava di Hegel, sì, parlava di Hegel, canta. Parlava dell'analisi transazionale di Jung, quindi cioè, con Lillo che diceva ma è uguale, e Greg diceva no scusi professore, la sta confondendo, esatto. Lillo, ma è uguale, è identico, e c'era questo misunderstanding che insomma funziona, questa è una contrapposizione che fa ridere, sì. È bello sentire Bombolo, sì, che però sai fatto in questa della chiave critica qua, della religion pura, in questa chiave qua comunque è una chiave quantomeno non dico originale, ma no è originale, sì. Beh, la comicità si basa su dei dogmi proprio, è tecnica allo stato puro, insomma non è come quando uno scrive una composizione, cioè devi sapere che quegli archi possono entrare in quel modo, poi uno trova il modo nuovo per farli entrare a sorpresa, ma quella è insomma, sì. Però per far ridere quello, ma poi anche l'idea che hai trovato bellissima, Chiara ha trovato questa idea che io ho riso, ho chiamato di notte a mezzanotte a mezzanotte sono di fronte a Comedy Central, sì. E tu che facevi questi concerti dal vivo con i fan di quel cantante e alternavi il cantante al fan, che è una cosa bellissima. Noi abbiamo un qualcosa che ci racconta quel momento, Mauro Meconi, che cosa è suo, sì. Sì, sì, abbiamo qualcosa dopo. No, ma sai quell'idea lì, è nata. Io sono un patito di Fellini. Questo è come Bombolo che parla dei canti. No, però è vera questa cosa. Sì, ma guarda, l'analogia è la stessa. Però ti dico che guardando un film bellissimo di Fellini che si intitola Roma, mm-hmm. Tanto per cambiare, c'è vero? Un quadro bellissimo a Lambra Jovinelli dove c'è il performer sul palco e Lambra Jovinelli è risaputo, insomma, era uno spettacolo. Era uno spettacolo. Spogliarelli e il film. E pubblico soprattutto che urlava e voleva partecipare perché, certo, pagava il biglietto, e c'è questa scena che io amo tantissimo di questi due sotto che urlano vattene vattene al performer, che continua a perseverare nel suo numero, vattene te ne devi andare, e continuano, alla fine si guardano e la risolvono loro, si guardano e dico vabbè va, se ne andiamo noi, e questa cosa mi ha fatto impazzire e mi sono un po' se ne andiamo noi non è male, sì, mi sono un po' ritirato giù poi tutte le esperienze vissute nei concerti da pubblico e ho unito queste due forme diverse, cioè il cantante che si esibisce, quindi di fatto imitavo il cantante, e i due sotto che è un'idea teatrale meravigliosa. E qual era quella bella, tutte quella con Antonacci, quella che io amo più di tutte è quella legata ad Alex Britti, che tra l'altro saluto perché grande amico, a breve tirerà fuori un nuovo lavoro che io ho avuto il piacere di sentire, anche perché viviamo molto vicini con Alex, però state laggiù? Sì, stiamo laggiù, che fai, okay. Come Barbarossa che ci dice ci state fuori, no, ci incontriamo sempre in un ristorante lì vicino, sì, da voi, laggiù. E al Palalottomatica io ho assistito a questo siparietto stupendo. Britti usa spesso introdurre le sue canzoni con dei virtuosismi alla chitarra, insomma, non dobbiamo raccontare niente, Alex, sì, fa parlare la chitarra, sì. E quindi oggi sono io, magari la prende molto alla lontana, da B.B. King passa un po' per Ben Harper, capito? Cioè passa dentro e fa questi soli di introduttivi bellissimi sotto questo è un genio, questo che stava nel pubblico, perché è riuscito a farsi sentire al Palalottomatica. C'è stata una pausa bellissima che ha interrotto l'inizio della canzone con la fine del suo virtuosismo alla chitarra con l'inizio della canzone, e sotto questo ha urlato a Britti, la chitarra funziona, vuoi provare il microfono, cioè, è stato geniale, capito? stato geniale, secondo me. E si è sentito in tutto il pallottone, perché poi il pallottone ha un'acustica che appena parli rimbomba totalmente. Me lo fai un piccolo esempio di questi fan con i loro cantanti preferiti? Ma ti prego, questi fan, guarda, sto come al jukebox, come un bambino di fronte a te. La cosa che ho fatto nell'ultima edizione di Zelig, all'inizio erano solo romani questi due, quindi stavano sotto il palco solo i romani, poi arrivavano, ho detto, spesso vengono anche da altre parti d'Italia, poi ci ho aggiunto un calabrese, ci ho aggiunto un milanese, e ho fatto questo gruppo di amici che vanno a vedere un concerto, e c'è sempre uno che dice: ha capito chi è? Ho capito, ma io manco ce l'ho venì. Cioè, sta sempre qualcuno che non ce vuole. Io non ce l'ho venì, sta a casa mia, mi sta a guardare Cucina dell'Incubo. Dice: ma dove, su Sky? No, proprio a casa mia, una settimana non rifaccio i piatti. E tutto questo accade mentre io con la chitarra sotto sto, magari spengo il telefono, con la chitarra sotto mentre sto per introdurre il pezzo. Poi magari arriva un milanese: siete romani? Sì, siamo romani. Iniziato il concerto. Dico: no, guardi, ancora sta amico, pensa a Dio, la rimane a casa. Voi siete romani di Roma? No, non siamo romani di Tunisi. Ho preso una villetta vicino a Tunisi. Poi arriva il calabrese che cerca, è ossessionato dalla nipote. Quindi: scusate, avete visto a mia nipote? Che si perde sempre la nipote al concerto. C'è sempre. Ma non la conosciamo. Cioè, come hai la pretesa che io posso conoscere tua nipote? Cioè, lui avete visto a mia nipote? Dico: no, non la conosciamo. Perché gli ho detto: ti viene a prendere zio con la macchina. Si vede che l'ho presa in pieno, perché poi non l'ho vista più. E quindi c'è questo siparietto, e poi inizia il pezzo in cui io canto. E adesso mi risulta un po' difficile perché non ho la chitarra, a saperlo me la portavo. Insomma. Comunque posso dire che anche i balbuzienti sono dei bravissimi imitatori, nel senso che quando in realtà hanno il blocco, una delle strategie per qualcuno, per esempio, è quello proprio di eliminare la voce naturale, di usare, certo, le imitazioni, una battuta, parlare napoletano. È come mettersi un altro vestito, certo. Assolutamente. E tu soprattutto dai fumo negli occhi all'altro, no? Esatto. Che non si accorge. Tu balbettavi? No, non ho mai balbettato, mai. Mai, non ho avuto questo piacere, insomma. Psicologi hai frequentati? No, psicologi li frequento tuttora. Sì, il mercoledì alle 18, quindi per quale motivo? La seduta è sempre lì. Sì, mutuo, sì. E psicologi. Sì. Restate con noi ancora, con Andrea Ferroni e con Chiara Comasi. A questo punto accompagnaci fino alla fine, dai. Volentieri. Va bene. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, 16:16 primi. Chiara Comasti mi accompagna, perché è giusto avere una psicologa così brava. Non si sa mai. No, serve, ma poi sei veramente brava, radiofonica al massimo, e tornerai. Assolutamente, molto volentieri. Assolutamente. Andrea Ferroni, eccomi. Ho cominciato quel percorso bellissimo delle... Quando hai scoperto che con la voce facevi quello che volevi? Ma l'ho scoperto in realtà alle elementari, perché non mi stavo mai zitto, cercavo sempre delle strade per non studiare, no? Ecco. Le strade per non studiare erano quelle di poi, piuttosto banale poi come dichiarazione, però è vero, no? Sono quelle di imitare i professori piuttosto che i maestri, i compagni, insomma, e si parte da lì. Ho avuto ospite subito, lui l'ho chiamato immediatamente quando ho capito che era bravo, il primo Gran Premio Internazionale del doppiaggio. Ah sì, palco, come no, ed ero giovanissimo. Un bellissimo successo, lì imitavi soprattutto gli sportivi, no? Sì, là c'era Piccinini. Là imitavo gli sportivi, sì. Guarda, l'imitazione di Piccinini secondo me è stata, insomma, mi ha dato tanto, perché poi Sandro... da lì devo dire che ha anche giovato di questa cosa, perché voglio dire lui... certo, no, l'imitazione funziona, perché tu imiti le persone che funzionano, e chi non lo conosce magari lo va a vedere, dico, a me a vedere. L'ho un po' esasperato, io l'ho iniziato a fare a Colorado Caffè con Rossella Brescia e Carla Signoris, che conduceva. Che brava. Un'altra straordinaria. E mi ricordo che poi Carla è una partner fantastica, proprio una spalla fighissima, e lì c'era questo tormentone che era Shevchenko, c'era sta cosa, sì, qua, perché all'epoca lui urla così, sì. E poi c'erano, insomma, i soliti punti miei fermi, che erano: ci vediamo tra poco, Lucia Blin, andiamo un attimo il bar, cioè c'è un intercalare perfetto. Feci un'entrata a gamba tesa a Piccinini proprio in una serata di controllo centrocampo in cui entrai completamente vestito come lui, identico, spiccicato a lui, cravatta. Lo spostai praticamente e portai avanti la trasmissione io per tipo 5 minuti e presentai tutto il parterre, ospiti scatenatissimi, Giampiero Mughini, Diego Batantuono. Quella sera c'era Spalletti, che è un altro cavallo di battaglia. Quella sera c'era Spalletti che nella timidezza disse: io Andrea lo devo ringraziare perché mi migliora. E quindi questa cosa qua del migliorarmi. E poi Spalletti è un amico a prescindere, sì, dal calcio, dal gusto della squadra, e una persona intelligentissima. Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno. Manca Luca Barbarossa. Manca Luca Barbarossa. Ah, sarà geloso. Ero in procinto di entrare in una casa nuova, quella di cui sopra del mutuo che sto ancora pagando. E mi arrivò una telefonata, io avevo operai per casa, mi arrivò una telefonata di un operaio, mi diceva: guardi, io c'ho il brecciolino qua, devo scaricare il brecciolino. Dico: ma io non ho ordinato sto brecciolino. E io che fo, lo butto qua davanti. Dico: ma perché è toscano questo? Era Spalletti che mi telefonava e fammi uno scherzo. Ma dai, perché sapeva, sì, ma lui è, ma che è bella fantastico. Sta cosa. Beh, bella, beh, ma questa è grande l'autoironia, no, Chiara, sì, che sì, ci sì. salverà. Ci sempre. Salverà, ci salverà. L'autoronia, dobbiamo essere i primi a prenderci in giro in qualche modo. Non tutti poi hanno preso bene, prima parlavamo dei concerti, c'è stato qualche cantante che se l'è un po' presa. Beh, un problema suo. Sì, ma è rimasto un problema suo, per carità. C'è qualcuno che ha fatto anche la scoattata per telefono, quindi, però non posso svelare chi, insomma. Però, insomma, vabbè, un cantante mi svegliò nel cuore della notte. Addirittura? Sì. E sì, beh, quello perché, vuol dire che funziona. Perché dai. Era all'estero, capito? Quindi Ma questa è una cosa come quando prendevamo in giro Beautiful all'inizio, che facevamo più ascolto di quello vero, che già faceva un ascolto pazzesco e ci bloccò la Rai perché dice: non è possibile, state facendo perdere significato. Pazzesco, invece era una soap opera. Bloccato, non sì, sapevo. Per due settimane ci hanno dato due giornate, praticamente, è come se fosse una somma da munizioni, due giornate, perché Enza Sampo diceva: io devo fare il programma la domenica sera, loro dopo la Carrà hanno questi ascolti 7-8 milioni, quando ancora la televisione faceva degli ascolti quando importanti. La televisione faceva e cioè, per cui perdo credibilità. Invece no, e poi vennero ospiti da noi e ci sublimarono, perché se tu fai con Clark e fai le scarpe come faceva Ciupoli oppure Ridge, sono troppo figo, tutti i tormentoni avvalorati esso da loro è stata la loro condanna definitiva, anche per noi, devo dire che ci ha accompagnato tanto. Però le tue imitazioni sono belle perché sono vocalmente perfette. Cioè, tu puoi anche rimanere con la tua barbetta, il tuo capello, la cuffietta intorno, il finto telefono quando fai le telefonate lì da Luca Barbarossa, eccetera, ma funziona. Però posso giurarti non ti sei mai travestito Amo molto i trucchi, tranne insomma una volta per fare due o tre volte. Mi è capitato quando ho dovuto fare Papaleo. A Rocco? Sì, feci Rocco Papaleo per Stracult con Marco Giusti. E quindi là doveva, avevo bisogno di un travestimento. E feci Papaleo e poi per fare Spalletti i capelli io li sto quasi perdendo tutti, però insomma non ho quel grado lì di calvizie, no, quindi, grado, no, quello ce l'ha Ciufoli, esatto, quello ce l'ha Ciufoli, il povero Ciufoli, sì. E quindi no, però non amo molto i travestimenti, anche nello spettacolo che ho portato in scena al Sistina lo scorso anno, che era di fatto una pièce mia, un recital mio. Ambientato in un attico di una casa. Sai, tu c'è proprio sto muto, sì, ce l'hai dentro. Amo l'immobiliare. Esatto. E anche lì ero praticamente in balia di una serie di personaggi inediti che raccontavo, incontravo in questa casa, era una festa. In realtà io questo spettacolo l'avevo scritto prima, lo giuro, lo stragiuro che l'ho scritto prima che uscisse La Grande Bellezza, tant'è vero che a una ragazza che mi fece un'intervista nel 2012 quando vide questo pezzo qua, no scusa, nel 2015, dopo che è uscito La Grande Bellezza, esatto, mi disse: ma possiamo dire che lei si è ispirata alla Grande Bellezza? No. E io ho detto: possiamo dire che lei non ha visto La Terrazza di Ettore Scola? E quindi c'è stata un po' di... Hai sentito che botta? Sì. Come se uno dicesse a te: si è ispirata a questo, e tu gli racconti invece. No, ma con tutto il rispetto per Sorrentino, nel senso che per carità, quella roba lì l'aveva fotografata Ettore Scola senza essere riconosciuto. Un film che è passato leggermente in secondo piano perché c'è stato la famiglia che ha fatto da padrona, perché la famiglia e La Terrazza di Scola raccontano veramente tutto. Sì, possiamo stare qui una vita a raccontare Ettore Scola, no, è fantastico. Però è bello perché, ti ripeto, non hai bisogno, tu ti trasformi con la tua voce, riesci veramente con grande semplicità a cambiare i dialetti, a vocalizzare, a mettere la voce da altre parti e accompagnarti in questa cosa. E non mi sono operato alle tonsille per questo motivo. Esatto, perché il dottorino mi ha detto: guarda, che se te opera le tonsille è facile che tu possa perdere un po' di. Cioè, come è se così, svuotassi chiaro. Una cassa di riso. Come se tu svuotassi. Abbiamo proprio. Sono un foniatra, però sicuramente insomma c'è una massa diversa all'interno del tuo cavo orale. Il suono può che cambiare. Sarà di densità diversa. Tu immagini se mi cambia il suono. È finita, io ci faccio special. Tronate, poi finisce pure questa roba. Mi caccia via Luca Barbarossa. Ma scherzi, me non mi invita più Pinonzigno, me le mando casa. Italia, Equitalia ormai c'è un rapporto diretto. Sono socio io, figurati. Sei uno dei maggiori azionisti. Sì. Ci sentiamo quel pezzo che tu, caro Mauro Meconi, hai trascinato giù da qualche parte del caro Andrea Peroni. È uno Zelig, credo. Ascoltiamolo. Tutto quello che avrei lasciato, scesi nella strada, mi mischiai al traffico. Sul ritornello dove entra Califano. Non si ricordava. All'improvviso l'unica cosa che gli ha fatto riaccendere la lampadina è stata questa. Uno dal balconale ha fatto: a fratello che dopo ti faccio conoscere, amica mia, buona! Di bici l'anima, su te l'anonima, e mescolai la vodka con l'acqua tonica. Siamo il capitano che vi fa l'inchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo l'arroganza che non ha paura, siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Dubbiotte, manca la fattura, ce la fa! Tutto al nero, sei bravo, sei! Napulepino, dopo. Senti che carina questa, senti. Scarabone Pino! Cerca di avere un po' di pazienza, dopo te ne faccio. Ero venuto per quei due, capito? Bambina, che sogni di cantare alla TV. Napula Pino! Bambini, quattro sante e un po' di tempo. Scarabone Pino, la mulassa, ma è rotto cazzo. Sì, questo era. Ma che bella cosa, questa è l'idea. Grazie che mi avete fatto risentire questa cosa di Pino, perché io non, da quando Pino è scomparso non l'ho più fatto dal vivo. Tanti me lo chiedono, ma è quasi. Ma sai che c'è? Che tu non, secondo me non devi. L'ha no, fatto no, anche ancora la, per il momento. Poi l'amico che imitava Alberto Sordi, no? Sì, gigante. Come no? Max Tortora. Max come no? Tortora. Secondo me è bello perché riuscite anche a farlo rivivere in qualche modo invece nella memoria collettiva. Sì, no, ho aspettato diciamo un po' sì, per certo, subito dopo, sicuramente mi sembra un po' di cattivo gusto, però io ho avuto la fortuna di conoscere Pino Daniele ad agosto del 2014, poi lui è scomparso a gennaio 2015. Ho avuto la fortuna di conoscerlo in un concerto per 40 persone. Nel suo stabilimento sua. Che era il Tuscany Bay a Porto Santo Stefano, davanti al mare, ed era in formazione con Rino Zurzolo e Rosanna Serio al pianoforte. E fu una serata stupenda, dove purtroppo c'erano poi, sai, a Porto Santo Stefano capitano poi i barcaroli romani, no? Quelli lì che hanno la barca là, certo. E io fulminai una signora che urlò al figlio mentre Pino cantava: Gianluca, magnata la frutta. Era proprio da tirargli una roba. Queste sono le cose gratis, sì, esatto, 40 persone. Ma la cosa bella fu questa, che Pino disse a tutto quanto lo staff del Tuscany Bay: questo concerto è per voi perché ve l'avevo promesso, non ho mai avuto il tempo di farlo, adesso l'ho trovato e ve lo dedico. Sì, lui era molto, molto, molto generoso. Devo dire che ho avuto la fortuna di accompagnarlo per tanti anni e io lo dicevo sempre: soffro tanto quando vengo ai concerti con te, perché 8.000-10.000 persone urlano Pino e non so io, capito? Io lo dicevo con tutto il cuore, una sofferenza. Bello. Perché dico sì, te lo meriti tutto, però Pino mio, quanto se soffre, non so io, capito? Certo, chiaro. Allora, senti, tu, visto che siamo a Radio 24, sì. tu ti sei permesso di toccare una punta di diamante qui di Radio 24. Beh, direi proprio di sì. Che ne pensi? Beh, che ne penso? Penso che mi sono permesso di toccarla perché certo, secondo me è un personaggio che merita. Tu sei più, tu sei beh, amico mio, vai, dai. Allora prego, forza, dai. Eccoci, come va? Ecco, che ne so adesso, 16:28. Pino Insegna, amico sì, mio. Sì, ma ancora fai sta stronzata qua, questa cosa qua di. Beh, no, come si chiama? Voice Anatomy. Beh, amici miei, siamo al top. Voice Anatomy. E che vorresti fare questa cosa qua? Beh, per la voce, parla della declinazione della voce. Della voce, è una cosa. La declinazione? Della voce, cioè parlo che, amici miei, sentite, mi chiamate Parenzo intanto perché voglio sapere dove sta. Credo che sia andato negli Stati Uniti, voglio sapere se Trump l'ha fatto entrare. No, senti, e quindi fai sta roba qua, che fai? Invidi gli amici tuoi? Sì, no, queste cose qua, doppiatori, attori, cose. Ma non è una marchetta, Giuseppe. Una marchetta, dai, dai. No, non è una marchetta. Via qua che poi magari dopo qualcosa ci scappa. Ma no, no. Ma che c'è? Ma perché? Ma come mai il mondo dello spettacolo è messo così male? Ma no, ma non è. Ma come mi piaceva faccio il doppiatore. Dì la verità, di cosa dai? Di che cosa pensi di te? Sto Sanremo come lo vedi? Lo vedo. Dai, di la verità. Dai, Carlo Conti, com'è? Poveraccio, dai. No, ma non mi dici, non mi metti in bocca parole che non ho detto, Giuseppe. La De Filippi è decadente, amico mio. No, non è. Ma l'hai vista là con Costanzo? Sì, beh, sì, no, non l'ho vista. La finta commozione, amici miei, la finta commozione della De Filippi con Costanzo. Ma veramente una roba di quelle che c'è. Guarda che sei veramente. Ma dai, non mi rompere i coglioni. Che c'è? Fermi tutti! Mario da Genova! Abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata. Veloci. Pronto, ciao. Volevo chiedere una cosa. Amico mio, abbassa via voce, altrimenti ti mando subito a fare il culo. Dimmi veloce. Sì, volevo sentire la voce di Pino in Aragorn, Signore degli Anelli. Volevi sentire la voce di Pino? Pino Insegno. Sai chi la fa bene questa voce? Tua madre. Chiudimi sto strozzo subito. No, è un cretino, dai. No, ma c'è. Aspetta, c'è un altro ascoltatore. Pronto? Chi è? Pronto? C'è un altro ascoltatore in linea, sì? Veloce, amici miei, chi c'è in linea? Ma chi è? Oh, ma che volete? Oh, veloce, dai, dimmi, veloce, vai. Quindi? Ma Pino Insegno di che squadra è? Dai, ma non mi rompere i coglioni che sto con queste domande. Fai una domanda, ecco, che vuoi chiedere? Dimmi. No, ma scusa, tu sei con Trump o contro Trump? Non ho capito. Ma che c'entra sta cosa tu qua? Che parli tanto, ma che cosa me ne frega a me? Ma che cosa te ne frega a te se io sono con Trump o contro Trump? Tu hai chiamato per dire ma che no, cosa? Ma è importante, ma che cosa? Ma cosa è importante? Conduci una trasmissione. Ma che conduco? Ma non mi rompere i coglioni. Ma dove stai? Sei un poveraccio. Dove stai? Dove stai? Vuoi dire come la pensi o no? Non lo vuoi ma dire. Ma che cosa me ne ma sono cazzi miei di cosa? Ma devi avere il coraggio di dire come la pensi. Ma mica sono come Parenzo che dice quello che dice le stronzate e poi se le rimangia e volta capa. Ma che coraggio? Chiudimi sto stronzo, parlo di coglioni, dai. Ciao Giuseppe. Giuseppe Cruciani, quello vero. Che bella cosa. Ciao Giuseppe. Allora, devo dire la verità, ci sono anche altri che hanno provato a fare delle imitazioni eccetera, però questa qua siccome dura un po' nel tempo ora funziona. Le cose sono due: o Perone non ha più un'idea, bravo. Cosa possibile, senti come picca, effettivamente tiene, dai, effettivamente questa roba tiene, funziona, no, tiene tantissimo. E poi ti dico che quando vengono ospiti da noi a Radio 2 ci sono degli ospiti che arrivano e mi chiedono proprio mi intervisti come se fossi Cruciani. Per favore, mi fai Cruciani oggi? Sì, è così, pure a me me l'ha fatto. Vogliono essere massacrati, capito? E io li massacro. Poi è sicuramente uno stratagemma per permettermi di dire delle cose. Sì, di liberarmi. Delle cose che magari pensi, no? Sì, esatto. delle cose attribuisci a me. Esattamente. Esatto. Io mi faccio scudo di questa cosa qua per dire delle cose. L'altro giorno è venuto Sidney Sibilia con Locascio per Masterclass. Sì, e l'ho distrutto il film, mi dispiace. Dai, me ne frega un cazzo. Hai attribuito tutte le peggiori nefandezze sotto. Ma infatti se la prendono con te è bellissima questa cosa. Le querelle che magari possono partire da là arriveranno a te, quindi che me ne frega. Che bella amico cosa. Mio, siamo al top, che me ne frega. Che me ne frega a me. Ha sdoganato tutto Cruciani. Fatto film alla fine è una merda. Ma dai amici miei, ancora con sto film ho dato 4 milioni di euro per fare sta strozzata qua. Dai amici miei, si ride al 32esimo minuto. A 33 ho staccato. Ma andate a fare il culo, dai, su. Grande Giuseppe, ti abbraccio forte. Grazie, ti Giuseppe. Ringrazio. No, che no. Bella cosa. Ciao Giuseppe. Ciao. Restate con anche noi. Il suo modo di chiudere le telefonate è fantastico. Com'è adesso cosa c'è? Andiamo pubblicità, in pubblicità. Le sì. Cose. Sì. Ciao. Da fa culo. Tra pochissimo poi sanatomi. Voi Grey's Anatomy. Bentornati signori miei, 16:36 primi, una manciata di secondi, sempre Andrea Perroni, ma soprattutto Chiara Comastri qui vicino a me, che tornerà, perché vedo che ci sono tantissimi messaggi. C'è qualcuno che ha detto da balbuziente: caro Insegno, ti dico che potevi evitare quella pessima battuta, ho perso quella stima addirittura. No, cercate di essere anche ironici, cerchiamo di alleggerire anche, ma senza, non è che non prendiamo sul serio il problema, tant'è che una grande psicologa che si occupa di questo, ex balbuziente, qui al mio fianco, e dalla sua faccia esprime anche un sorriso. Insomma, cerchiamo di essere anche leggeri. Che solitamente quando si risolve completamente è facile autoprendersi in giro, cioè chi invece se lo vive ancora come un problema chiaramente vive il peso di tante prese in giro, magari che si hanno durante la scuola o quant'altro, degli sguardi da pietismo, no? Quindi comprendiamo, sì, insomma, capire, questo messaggio. Ti chiedo scusa se io riconosco assolutamente, anche una volta ho detto una parola durante Buona Domenica, ho detto un attacco epilettico, mi è preso, tanto per dire che ero elettrizzato, giustamente l'Unione Italiana Epilettici e Epilessia mi ha detto: Pino, cerchiamo di stare attenti a questa cosa, assolutamente, per cui grande rispetto, ti chiedo scusa, a parte tutti gli altri bei messaggi, io ci tengo a raccontare anche dei messaggi che non sono... Però adesso hai chiesto scusa, devono mandare un messaggio di stima per la trasmissione. Adesso deve arrivare. Caro Andrea, sapresti imitare la De Filippi? Pensavo fosse sua la voce di Stallone nei Mercenari. Dai, è cattiveria. Ilaria dice: Cruciani, mi raccomando, ma l'ha fatto. Eccetera, eccetera. Sono tanti messaggi a te. Ci sono delle domande che mi ha preparato giustamente Mauro Meconi per fare ad Andrea. Allora, Spalletti, dopo il successo faticoso col Cesena in Coppa Italia, come reagirà la Roma in campionato? Beh, noi abbiamo poi sviluppato un calcio abbastanza superficiale per quella che è stata poi la partita con il Cesena. Poi di conseguenza Francesco, quando entra il tocco, il tiro, il colpo, il tacco, lo fa sempre, ma bisognerebbe avere 100 Franceschi nella, di conseguenza non ci ho capito una sega neanche io, quindi ho capito, vabbè, non è molto chiaro. E invece no, Franco Carifano, Franco, hai la minima idea di quanto hai lasciato la poesia e la musica, Franco? Chi? Tu, dico Franco, sai, hai lasciato molto la... Ah sì, beh, l'ho lasciato, poi uno lo lascia, lo invia. No, ma insomma, ma non è che ho lasciato. No, ma questa è una banda di delinquenti, di Fidera Mignotta, che te prendono, te scippano i pezzi, poi la CIA non la paga. No. Che ride quello? C'è uno che ride dall'altra parte del vetro. No, vabbè, non capisce che tu in questo momento sei arrabbiato, ma io volevo dire che tu hai lasciato un'eredità importante. Ma io sto alla bomba adesso. Non lo so, in paradiso. Sto cercando di scendere giù all'inferno, perché due coglioni in paradiso, una cosa. Questo è Franco. Allora, capito? Questo è Franco. Ho fatto di tutto proprio, ho contato Martin Luther King, io ho detto negro, non è bastato neanche questo. Proprio ho fatto la cianchetta a cosa, a Madre Teresa di Calcutta, non si può, non mi portano giù, no. Poi purtroppo io ho il mio intermediario che sta giù al purgatorio, non posso dire i nomi, non so. Posso dire, dico. Siccome lui c'ha una compagnia telefonica che è una merda, non prende niente. Il purgatorio c'è una tacca e mezzo. No, non prende. Se non ti metti in pizzo tra paradiso e burro, non prende niente. Niente, quindi non... per sentirlo una cosa brutta. Tu invece vorresti andare in inferno, dove sì, almeno ti divertire se mi devo rompere i coglioni per l'eternità. Vado giù all'inferno. Hanno fatto la festa con Jimi Hendrix l'altra sera. Bella, dice. Provato a giù. Con Bester, giocatore, sai? George Bester, come no, il grande. Lui c'ha la lambretta codificata al cinquantino. Ma come c'ha la lambretta? E lui sta a purgatorio, no? Lui va giù, è andata alla festa e tornava su. Dico, guarda, mi dai uno strappo e ritorna su. E certo. Se va lì, è finita la benzina. Niente, non siamo venuti andare giù. Niente. Sentivano urli, cose, bombe, cose. E lì c'è Jim Morrison, stanno come tutti. Si è aperto un coffee shop Jim Morrison. Ma giuro, addirittura questo. Questa è un'altra cosa che facciamo a Radio Social Club. Ricordiamo il maestro Franco Califano paradiso. Ma lui è una persona incredibile. L'abbiamo amato, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo abbracciato. Io l'ho conosciuto, me lo sono vissuto negli ultimi anni della sua vita, poi in questi ultimi anni, da quando lui è scomparso, con Federico Zampaglione, ogni tanto quando torna a trovarci in radio lo omaggiamo sempre di alcuni brani, con alcuni brani che ha scritto il maestro. Stupendo. L'ultima volta che sono stato ospite di Zampaglione, stavo all'auditorium del Parco della Musica. Dipinsi l'anima. Ho presentato il singolo di Federico, che è L'ultimo treno della notte, che sì, poi gira ancora in tutte le radio. E Federico ha voluto che io lo cantassi con voce di Califano, perché mi ha confessato per telefono. Mi ha detto, dice Andrea, io devo dire una cosa, non l'ho detta a nessuno, e poi è diventata di dominio pubblico questa cosa, però il primo a saperla sono stato io. Mi ha detto, devo dirti che questo pezzo io l'ho scritto quando il maestro è scomparso, poco dopo, ero in un momento forte di malinconia, perché Federico è molto legato al maestro, dice, ero al pianoforte e t'assicuro che questo testo me l'hanno mandato, non l'ho scritto io, e le parole di quella canzone sono veramente hanno l'imprinting di Califano, non hanno l'imprinting di Zampaglione. E fecero quel bel, quella bella canzone loro insieme. Fecero quella canzone bellissima, che era Un tempo piccolo, oh, e ebbe un successo, bella canzone, ebbe un successo stupendo, insomma. Che io poi gli dissi un giorno, ma perché dici di buttare le parole in ogni cesso? Lui dice, amico, qualcuno dice, non è cesso, eccesso, buttare il mio cuore per qualunque cesso. Io invece ho detto, perché buttare, è bella quella, lui non dice, però Zampaglione nella sua versione non dice cesso, manco io dico cesso, eccesso. Ma la storia di quella canzone poi arriva da un ragazzo che raccontò al maestro la sua storia, perché poi Franco, quando maestro Califano, quando pranzava o cenava, non si girava mai, era seduto al tavolo, se qualcuno lo chiamava da dietro, lui era con il corpo completamente fermo, girava solo la testa, cioè metteva la testa un po' indietro. Adesso per radio non è molto radiofonica questa cosa, però lui diceva sempre, maestro, volevo farle leggere questa cosa, gli metto d'accordo con Roberto, che era un suo amico. Sì, l'amico. Poi prese questo testo, che in realtà era la storia di un ragazzo che diventò grande in un giorno piccolo, diventando da, che ne so, era tipo un dipendente di un'azienda, diventò il manager di questa azienda in un tempo veramente piccolissimo. Ma che bella, quella è poesia vera. Le parole sono sue, la musica di Zampaglione. Sì, le parole sono di Franco. E ma bella, vodka con l'acqua tonica la mescolava, sì, solo Franco. Ma bello, ma no, guarda che ricordi meravigliosi. Tornando a te, caro Andrea, dove possiamo seguirti in questo periodo? Allora, adesso vai a Sanremo. Subito dopo Sanremo, Sanremo torniamo e iniziamo un tour de force con uno spettacolo che sarà in scena dal 15 marzo al Sistina, che insomma è anche delicato toccare questo spettacolo, ma noi siamo felici di farlo. Ah, se ne può parlare. Certo, sì. Febbre da cavallo al Sistina dal 15 marzo con la regia di credo che tu possa conoscerlo, sì, non lo so, credo Claudio di Claudio Insegno, sì, sì, penso che sia un caso. Infatti cioè, l'ho coercizzato Insegno oggi dicendo questo: Andrea, so che sei impicciato di preparare valigia alla festa di tuo fratello, ma devi venire per radio, e se non vengo perdi la parte. Perdi la parte, se uno utilizza i mezzi che può. Dimostrazione che il nepotismo non esiste, esatto, in questo paese. Esatto. Non c'è coercizione, vero Chiara? Assolutamente no, tu assolutamente mi dai... per buon fine questo è altro, esatto. Quindi bene che tu sia qua, no, comunque siamo felici di mettere bello, in scena questa, ma in musical sì, con Maurizio Mattioli che sarà l'avvocato De Marchis, con Sara Zagna e Patrizio Cigliano, insomma tantissimi attori bravi. E certo, è un bel peso, portare... sì, è un bel peso. Infatti il fatto che Claudio si sia assunto la responsabilità di fare la regia, e poi insomma Enrico, Enrico Brignano che si è assunto, sì, la responsabilità di fare la direzione Massimiliano artistica, Franco la produzione, abbiamo già iniziato a lavorare. Devo dire che è un gruppo di lavoro bellissimo, dai, e sono felice, contento. Adesso non perché sei qui davanti a me, di ritrovare Claudio, che è un altro che mi ha visto crescere. Qui mi hai scritto pure una cosa bella, Luciano, ma davvero tu e Vasco vi odiate? Luciano Ligabue? Ma io non ho mai odiato Vasco, non sono stato mai nulla di particolare. No. Pensa che c'è un pezzo nel concerto di Ligabue che introduce insomma il concerto, dove si dice, ma quando inizia il concerto? E poi inizia e Ligabue parla, dice, questo amico è Federico Bosbolin, è un mondo visione, l'amico del gambo bolo, ma in italiano il concerto se lo chiedono, perché ma non è che ci siamo sbagliati, va bene, facciamo l'ultimo bocca al lupo a Ligabue, che so che ha dovuto rimandare le sue date, questo per... mi dispiace, insomma. Sì, esatto. Questo no, non si augura a nessuno, tutto un grande come lui, ma si riprenderà sicuramente. Noi invece riprenderemo fra pochissimo, gli ultimi 10 minuti insieme, prima di dare la parola a tutti convocati, sempre con Chiara, sempre con Andrea. Grazie, a tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati gli ultimi 10 minuti insieme con Chiara Comastri e Andrea Perroni. Eccoci. Che stavano disquisendo su una cosa molto interessante, perché Andrea diceva: io non la cerco la voce, non la provo, arriva, sì, arriva. E Chiara ha ribaduto. Ah, per me è fantastico osservarlo, anche magari perché ascolto un po' più complicato, ma per me che lo sto anche osservando, vedere che riproduce proprio anche i movimenti della bocca di Califano, per esempio, no? Mentre fa il tono, come parla, eccetera. E mi sono rivista io, perché io, per esempio, quando insegno magari una persona con problemi di balbuzie particolari che fa delle cose strane, ha degli ansimamenti piuttosto che dei tic sulla bocca, sulla lingua, che non ho mai sentito prima, cosa faccio io per cercare di capire come puoi aiutarlo? Riproduco esattamente l'errore che lui fa, nel senso che cerco proprio di andare a riprodurre meccanicamente quello che lui fa, lo duplico completamente il suono che porta fuori sbagliato, in modo da capire io internamente a me stessa cosa succede alla mia voce, al mio suono, al mio fiato, certo, alla mia movimentazione. E adesso tu fai Califano. No. E adesso tu dove fai Califano. Sbaglio. Però sai che questa cosa, e poi concludiamo, l'ho condivisa anche questo pensiero con Virginia Raffaele, che insomma è una mia cara amica. Bravissima. Tempo fa parlavamo di questo, Virginia anche mi diceva: io la voce non la studio più di tanto. Allora, o ce l'hai quella roba, almeno nel caso nostro, no? Credo che sia anche un miracolo questo, perché quando hai la possibilità di andare con la voce un po' dove vuoi, poi non è detto che riesci ad arrivare a tutti i colori, cioè tutti i colori non puoi mai prenderli, no? E forse anche l'imitazione stessa di Cruciani, la mia è una parodia, non è un'imitazione, perché il mio timbro non è vicinissimo a Cruciani. Insomma. Beh, tu però è quello che credi, perché io riascoltando il mio Cruciani sento che lui ci sono più leggero, delle cose, sì, esatto, ci sono colore, delle cose che però anche come suono, perché poi anche la comicità è un suono. Non c'è niente da fare, quindi il suono è simile e quindi è funziona esatto, amico mio, funziona. Senti qua. Se io posso dire su questo, sì, sì, un'osservazione anche di un musicista di Palermo, uno dei genitori di un bimbo che ha fatto il corso con me, nel sentire me che insegnavo durante il corso uno dei suoi bimbi eccetera, ha detto: Chiara, tu insegni come insegnano i grandi della musica, nel senso che ci sono quelli bassi che ti i maestri bassi che ti insegnano a ok, allora senti le labbra messe sul corno, quindi vedi, spingi così, senti più pressione, meno pressione, metti su, metti giù. E invece i grandi cosa fanno? Devi lavorare sul suono finale, tu devi ottenere il suono finale. Quando tu senti dal tuo corno il suono finale, vuol dire che hai prodotto completamente in maniera meccanica correttamente quel movimento, quindi lavora sul risultato finale. E la cosa bella che facciamo in psicodizione è lavorare proprio sulla voce tua, quindi cosa vuoi dire tu veramente, come lo vuoi dire, qual è la tua voce. Bene, adesso osserva mentre produci quel suono cosa fa la lingua, perché c'è tutta una rieducazione che va anche rimessa in forma, no? Per chi ha una disabitudine dovuta alla balbuzia da anni. Anche questa. Assolutamente. E ci sono invece persone che pensano a muovi la lingua così, fai la muscolatura così, ma questo non dà la libertà di comunicazione. Invece lavorare al contrario è fantastico. Tu lavori al contrario, tu qualche nemichetto. Sì, sono un po' bastia al contrario sulle mie cose, però vedo che funziona. La soluzione si trova. Gli sì, ultimi minuti insieme, c'è dall'altra parte Capuano, soprannominato a me l'altro anno mai una gioia per i risultati calcistici, invece devo dire che quest'anno, da quando ci siamo collegati, sempre cose belle. Che ti devo raccontare? Cioè, qui c'è Sandro Piccinini che vorrebbe prendere il tuo posto, Capuano. Sì. Ciao, scatenatissimo, ma, Capuano. Ma anche il contrario. Ah sì, vorresti prendere tu il posto di Piccinini. Hai capito. Lazio scatenata a Pescara, 6-2. Sì, 6-2. Adesso aspettiamo il secondo set, sì. Sì, ma dai, da due pari che mi era preso un colpo di quel collare. No, tra l'altro 4 gol Parolo, che sì, è impossibile, devo andare a controllare, pensare. Credo sia il suo record assoluto in ma carriera. Certo, porta a casa la palla e pure a rete, perché normalmente su 3 gol le porti a casa. Chi la palla. È speranzoso per questa sera? Visto che, cioè, speranzoso, noi lo siamo sempre, certo, perché io sono un tifoso della Roma. Però questa sera Juventus-Inter, secondo me, è una partita, non lo so, la vedo ostica. È una partita pazzesca, che ha un meraviglioso pregio, non conta nulla. Nel senso, vabbè, che comunque vada però, la Juve vincerà lo scudetto. Sai, sono proprio quelle partite. Se anche perdesse l'Inter, comunque resta in corsa per la Champions. Ah, tu dici, hai capito? Già hai dato questa niente proprio, mamma mia, sì. Hai sentito tutti. Chi è che ha detto questa? Sono Capuano. Luciano Spalletti. Buonasera. Siccome lei ha dato poi la sentenza dei comportamenti. Sì, no, ma il suo comportamento però è scorretto, nel senso che lei ha detto la Juve vincerà lo scudetto, quindi noi si gioca a fare, cioè noi si va a casa. Capuano, ma che figure mi fai fare? Io c'ho Spalletti qui e tu gli togli ogni possibilità di cura e di soluzione. Io l'ascolto sempre, perché poi di conseguenza, poi sentendovi, uso spesso una vostra citazione, che proprio lo dico il venerdì, sì, tutti ecco, convocati. Il problema di Spalletti è che inizia adesso e finisce alle 19. Esatto, è quella la cosa. quella. E gli altri risultati, mio caro, che allora, succede? Ti do gli altri risultati, sì. Detto che la Sampdoria ha vinto a San Siro nella partita delle 12.30, 1-0, l'Atalanta sta vincendo 2-0 con il Cagliari, siamo nei minuti di recupero, doppietta del Papu Gomez, sta vincendo 1-0 il Sassuolo Marassi contro il Genoa, gol di Pellegrini nel primo tempo, 1-1 tra Empoli e Torino, Bellotti e Pucciarelli, c'è stato un rigore sbagliato dal Torino con Iago Falche, Torino che non è assolutamente fortunato nei tiri di rigore, e poi l'altro risultato è Chievo-Udinese che sono ancora sullo 0-0 e anche qui siamo nei minuti di recupero. Bel campionato, dai, divertente. Infatti il Milan ha già parecchie si è azzuppato, il Milan ha fatto 5 punti nelle ultime 7 partite. Vabbè, l'abbiamo lasciato poi via, non dico da laziale, insomma, vabbè, speriamo bene, che ti devo dire. Amico Capuano, buona trasmissione, alla buon prossima, tutti convocati, a domenica prossima e grazie. E non posso dire a domenica prossima Andrea Peroni, perché starai a Sanremo. A Sanremo, però tornerò a trovarti. Tornerai, anche perché devi fare ancora le prove. Quando debuttate con Febbre? 15 marzo al Sistina, quindi avremo un periodo intenso di prove e tornerò comunque. Però la domenica sei libero, perché mio fratello non prova. La domenica sono libero, perché dici tu a tuo fratello di non provare in maniera tale, esatto, che io posso venire qua. Ti rubo a Luca Barbarossa, ti offrirò qualcosa in più, per muto, se devo sapere quant'è al mese. Io vengo con piacere, vengo con piacere. In bocca al lupo, Andrea, grazie davvero. Credi di essere venuto. E viva il lupo. Chiara, grazie. La gente, se vuole contattarti, se vuole sapere dove stai, dove insegni, dove noi aiuti. Noi insegniamo in tutte le principali città d'Italia, la sede a Torino, il sito internet è quello più comodo, nel senso che www.psicodizione.it è sicuramente il modo migliore per avere informazioni. Allora, www.psicodizione.it, esatto, semplice. Ma anche su YouTube, se uno vuole digitare psicodizione, sicuramente trova psicodizione molti video. È la parola chiave. Sì, assolutamente sì. Va bene. Allora, grazie Alessandro dall'altra parte del vedo, grazie a Rachele, la nostra capo redattrice di se stessa e di tutto quanto, grazie a Alessia Navarro, grazie a Mauro Meconi, grazie a tutti voi, come sempre, grazie per volerci così bene. A domenica prossima con Voice Anatomy. Grazie.